Voice Anatomy, viaggio nei mondi della voce, di Pino Insegno. Signori, benvenuti, domenica 15 maggio, questa volta in diretta dagli studi di Milano, dove ho avuto un'accoglienza straordinaria, nonostante il tecnico del suono si chiami esattamente con la finale, lì è Valerio, qui c'è Valeria, ma la pensano nello stesso identico modo. Per fortuna il campionato è finito per quanto mi riguarda. Grazie, sempre ovviamente in diretta, puntata straordinaria e molto ricca di ospiti. E iniziamo proprio questa puntata di Voice Anatomy con un grande amico, nonché un grandissimo artista e conoscitore di tutto ciò che concerne il mondo dello spettacolo e non solo, una sorta di applicazione sapienza. Potete scaricarlo su qualsiasi telefonino, perché lui non solo ha attraversato una bella fetta del mondo artistico, ma è stato testimone e protagonista di ciò di più bello e interessante: la televisione, della musica, dell'arte, insomma qualsiasi cosa sia prodotta fino ad oggi è passata tramite lui. Lui ha un nome e un cognome ed è Paolo Limiti. Benvenuto Paolo. Ciao a tutti, ma questo è completamente pazzo, non è? Mamma mia, tanto quella vicinati bene al microfono, devi condividerlo in famiglia, sì, con altri ospiti. Lo so che sei molto elegante. Beh, ti ho presentato quello che sei, tu sei lo scibile umano. Uno ti clicca, lo sfiori, sì, lui ti dice qualsiasi cosa, qualsiasi risposta. Fosse, però, ma non è solo, tu farai un po' una sorta di Virgilio con me, perché io l'altro anno con te mi sono fatto una bella passeggiata a Domenica Inn e devo dire, conosceva tutto di tutto, era straordinario. Ha fatto litiga anche Adamo con la principessa del Belgio, non lo so come ha fatto a saperla queste cose, ma comunque. È vero. Non sono solo, dicevo, lo studio oggi è colmo, perché qui con me è la giovane e talentuosa band musicale degli Street Clerks. Ciao, eccoli, sì. Poi li presenterò, ciao, ovviamente hanno un nome e un cognome. Ma non sono venuti, sono accompagnati da un infermiere per la legge 180 che li protegge. No, è il loro manager, ma una grande amica, grande professionista, non solo manager, ma anche una grandissima cantante, ed è Samantha Iorio. Grazie. No, no, è vero, io ho detto soltanto, adesso parlate un po' di me. No, dai, lascia stare, non c'è problema. Ringrazio il capotecnico che ha portato anche l'acqua e è andato ad aprire le porte, che è Michele. Grazie Michele, c'è una grande collaborazione. Sono tutti felici, forse perché non c'è Cruciani che si aggira per gli studi di Radio 24. Ciao Nicole, ufficio stampa. Beh, oggi veramente, veramente Milano. Milano è pronta. Dai, c'è. Allora, cominciamo. Tu conosci questi ragazzi straordinari? Un po'. Beh, li ho sentiti, un po' li ho sentiti. Come no, certo. E poi adesso, prima che cominciasse la trasmissione, si sono messi a fare bel pezzo degli Everly Brothers, che era una. È l'unico che sapesse da dove veniva quella canzone. Bye bye love. Bye bye love. Vogliamo fare quella in apertura? È bella, fatela Dio, dai, è bellissima. Sì, fate, perché lui conosce dal 1920 al 31, poi si ferma lì e riprende nel 74. Vai ragazzi, dal vivo, dal vivo. Bye bye love, bye bye happiness, hello loneliness, I think I'm gonna cry. Bye bye love, bye bye sweet caress, hello emptiness, I feel that I could die. Bye bye my love, goodbye. There goes my baby with someone new. She sure looks happy, I sure am too. She was my baby till he stepped in. Goodbye to romance that could have been. Bye bye love, bye bye happiness, hello loneliness, I think I'm gonna cry. Bye bye love, bye bye sweet caress, hello emptiness, I think that I could die. Oh bye bye my love, goodbye. Oh bye bye my love, goodbye. Oh bye bye my love. Beh, bellissimo. E intanto hanno un nome e un cognome ed è giusto presentarli. Qui alla mia sinistra, alla chitarra, voce ovviamente chitarra elettrica, in questo caso una chitarra acustica se non sbaglio, è Alexander Woodbury. Salve a tutti, ciao. Tu sei di origine... Io sono mezzo inglese e mezzo americano, sì. Si sente dalla C. Mezzo americano. Americano della parte di Firenze, sì. Florence. Cioè, tu hai mamma e papà. Sì, americano. Madre nata a Londra, di Londra, di famiglia londinese. Mio babbo invece della Carolina del Nord. Che non si sente da qui. Carolina del Nord. Sì, e esatto. Com'è successo? Cioè, questo è più roba da limiti in questo momento. No, perché no, com'è successo secondo te? Anch'io, cioè, mamma di Londra. Era una Southern Bella, mamma, una bella del sud. Sicuramente era il mio babbo, un bello del sud, perché il mio babbo di Carolina, sì. Gli è sfuggita, no, allora sta si cosa. Sono incontrati al Maggio Musicale Fiorentino perché erano entrambi cantanti, ecco, e quindi sono venuti in Italia per cantare sono rimasti lì, però si sono incontrati in mensa e sono rimasti lì, sì. È stato un amore immenso. Esatto. E lì sono rimasti. Sei nato qui prima, in sono Toscana. Nato a Firenze, come potete sentire dal mio accento, e sì, però sei l'unico che stava cantando in americano vero, perché gli altri invece si sentiva che erano italiani, perché... però tu l'hai armonizzati bene. No, non è vero, sto scherzando. Continuando, sempre alla mia sinistra, vicino ad Alexander, c'è un amico con il contrabbasso. Ridendo, no, Cosimo Ravenni con il contrabbasso. No, mi fa sempre sorridere che sono il contrabbasso. Ciao. Sono quei strumenti che se non ci sono si sente, se ci sono non si sente. E poi però si vede. Sì, no, quello io non so, tu si sente sulle spalle comunque. Il dramma è te sulla spiaggia, non hai mai rimorchiato mai, qua a fare, perché mai. Non c'è la canzone del sole, viene come viene col capito? Sai che palle lì davanti che al fuoco? Coglioni. Sì, sì, poi davano ti sente nessuno. Sì, esatto. Sì, sì, sì. Per cui... Poi tutti quando mi incontrano per la strada, ovviamente, certo. Poi i fiorentini, puoi immaginare le solite frasi tipo ma non era meglio un violino, un flauto, sì, traverso? Esatto. Ma non era meglio sta a casa? Ma comunque. E invece andiamo avanti lì alla batteria, questa volta un po' limitata soltanto. Vuoi sentire come viene la canzone del sole con la batteria? Con la batteria. Francesco Giommi. Ciao. Alla batteria ha portato giustamente solo il rullante. Il rullante, cioè... è un piccolo vetto per fare... Esatto, dovevamo scegliere o il contrabbasso o voi. Abbiamo scelto un po' di asciugare. Esatto. E l'ultimo, ma no, ovviamente soltanto in senso rotatorio, dall'altra parte c'è l'altro amico che non trovo il nome, però un giorno lo dirò. Ecco, Valerio, sì, me lo so perso, Valerio Fanciano, me lo so perso. Ciao, Valerio, ciao, mi ricordavo, però voglio dire anche il cognome. Tu invece... Però posso fare... Beh, tu... Ecco, in spiaggia. Però era più l'epoca quella fra Paolo Limiti e me che si rimorchiava in questo modo sulla spiaggia, no Paolo? Cioè, c'era chi suonava la chitarra che andava in bianco, esatto, e gli intorno altri, un pomicio continuo. Però ecco, insomma, Voice Anatomy è questo. Loro hanno sentito l'armonizzazione già all'inizio della trasmissione, ma c'è anche lei vicino, Samantha, che io ho conosciuto prima, sì. Di loro, ed è una cantante soul R&B straordinaria. Grazie, Pinuzzi. Facciamo sentire un attimo la tua voce, un pezzettino. Ma sì. La tua, guarda, voce sono soave. Sincera, io con loro, adesso mi viene la circo, con loro non canto mai. No, lo so. Però capita che magari durante le mie esibizioni io li chiami perché sono pazzeschi, loro sono fantastici. Giusto, è un valore aggiunto importante. E allora gli chiedo, dai, aiutatemi a fare questa canzone. Sì, lei chiede sempre scuse, l'ho avuto anch'io in uno spettacolo alla fine, l'ho fatta salire, non so, mi ricordo dove stavamo, al Sistino, dove stavamo, dico, Samantha, ma scusatemi, non ero pronta, preparata. Io ne do una sciaila, abbiamo dovuto sparare. Ma perché, cioè, me... da Franklin sei possessata di... Me la no, ma una voce, perché... sai, un periodo un è po' vero, che sto un po' giù. Vero. Sì, sì, è vero. E gli è partita la brocca, la gente è uscita urlando. Urlando. Dico, ma perché non ha cantato tutto lei invece perché dello spettacolo che non segna? Perché bisogna sempre stare un piede indietro, un passo indietro rispetto, insomma ci sono tante altri che ci dovrebbero invece... stare un passo indietro fino a cadere in una fossa, ma non tu. No, proviamo, ti ragazzi. Devi armonizzare? No, no, no. Non c'è, capito? Non c'è problema. Poi Paolo, stiamo io e te a cantare, fa capire la gente, voi sanatomi che cosa significa. Prego. Yeah, Eagles. Baby, up all night, tearing love apart. Scusate, oggi non ha voce. Are we the same two people who live through years in the dark? Every time I try to walk away, something makes me turn around and stay. I can't tell you why, baby, baby. I can't tell you why. I can't tell you why. Yeah, beh, meraviglia, meraviglia. Sono volando. volando qui fuori delle aquile, sono avvicinate. Cioè... Secondo me sono dei corvacci, ma fino a prova un'altra volta. Samantha, straordinario, l'ho conosciuta a un concerto di Mario Biondi, lei era la prima voce, nonché manager, nonché proprio anima. Assistente sociale, sì, approfondiremo un'altra volta. E lì è nata questa bellissima amicizia che si è trasformata anche in amore, mia moglie lo sa, insomma, ha accettato. Noi, insomma, ci amiamo tutte e tre, quindi. Lei è la fidanzata vera di mia moglie. Ma comunque, Paolo, bella puntata così, no? Strepitosa, devo dire. Così strepitosa, tieni a battesimo chiunque. È bello tutto, è tutto. È il tipo di musica che piace a me. Lo sapete, lo dichiaro pubblicamente sempre. L'outing che fai secondo adesso. Me l'ultima, no, le ultime generazioni musicali che ho visto io mi hanno acchiappato abbastanza poco, nel senso che lo trovo abbastanza uguali. Poi non, a me piacciono le cose con la melodia dentro. Se si perde completamente la melodia non mi interessa più niente, perché allora è ritmica con qualche strillo di sopra, insomma. Poi mi piacciono molto devo dire che l'unica cosa che mi può acchiappare ancora sono i testi, gli ultimi testi, quelli che fanno yeah, yeah, you, we, yeah, you, bye, quello bye. È bello. Quello è molto interessante. Quello è bello. Perché sono nuovi e c'è una ricerca creativa molto importante. È forte a livello proprio vocale. Poi Sanatomi si occuperà di una puntata proprio di questo. Poi, insomma, sono complimenti che vengono da lontano, nel senso che meno male Paolo ha tenuto a battesimo fior di cantanti. Insomma, una fra tutti, Mina per esempio, è una persona che hai sfiorato nella tua vita, no? Sì, ma sai, stavo ascoltando Samantha. Adesso Samantha, mentre cantava, e dicevo quanto è bello vedere e sentire cantare dal vivo, così come l'impressione che mi ha fatto noi, perché davvero, ragazzi, dovete pensare che è completamente diversa la sensazione, ancora di più se siete vicino, quindi nemmeno filtrati dal microfono, perché senti questa voce che diventa uno strumento, quindi viene usata come uno strumento, la puoi allargare, schiacciare, fai tutto quello che vuoi con la voce, esattamente come tu faresti con, ripeto, uno strumento, e quindi questo è meraviglioso. E una volta, molti anni fa, era invalsa la cosa per cui era tutto in playback nella Rai, in televisione, non so se lo sapevate, qualunque cosa si vedesse era completamente in playback, perché si diceva sì, perché così non si sentono i rumori. Era nato, credo, da Ben Stan questa idea. Mi fido, no, Paolo, tranquillo. Basta, finito, vai. Mi fido di quello che hai detto. Cercavi che io dicessi sì o no, ma io dico sì, sicuramente è nata da Ben Stan questa cosa. A cantare dal vivo in televisione, perché Polanca a un certo punto, mentre cantava il suo Diana, si interruppe il disco, continuava a fare Diana, Diana, Diana, e lui si è messo a ridere, ha dovuto rivelare, e così il mondo ha scoperto il playback. È vero, perché poi andavano tutti fuori sync, era terrificante. Mina, tutto questo nasceva dal fatto che Mina cantò in playback per molti anni, perché la Rai lo imponeva, cioè non c'era questa cosa, fino a che un giorno vide cantare... aspetta, ti dico, la signora Novak, come si chiamava? Kim Novak. No, Shirley Bassey. Viene cantare Shirley Bassey e a un certo punto canta, e lei stava alle prove, guarda e dice ma sta cantando in diretta, e fa sì, allora canto anch'io in diretta, e riparti tutto il e da lì comincia, e che lui non sa niente. Ma pensate che Voice Anatomy è appena cominciata, cara Valeria. Ci vediamo ci vediamo, non si può sentire, ci sentiamo tra poco. Voice Anatomy. Bentornati, come promesso, rapidamente qui dagli studi di Milano di Radio 24, vicino a me l'amico Virgilio che mi accompagna in questa avventura domenicale, Paolo Limiti, Samantha Iorio, grande manager ma grande voce, i Street Clerks. Ma adesso cominciamo a parlare un attimo di voi. Insomma, io so, la vostra storia parte da una telefonata di Alexander, se non sbaglio, e va fatto una proposta alla quale non potevate rifiutare. Che non potevamo rifiutare. Che poi io ho doppiato. Non fa la cosa che io ho fatto in un film, hai capito? È vivente chi l'ha fatta. E mo canto una canzone tua. Scusa. Ma guarda, allora, contrabbasso non chiediamo niente. No, scherzo, te lo cuore. L'ho solo ridoppiato io. Alexander, com'è nata questa telefonata? Soprattutto, in che lingua gliela fatta a questi? Cioè, in toscanaccio. In toscanaccio, vero? No, l'ho chiamato perché l'ho visto suonare, suonava il basso e cantava, ho detto wow, un bassista che canta, e io volevo mettere su, avevo il mito dei Beatles ovviamente. Ah, volevo per cui mettere gli su. Scarafaggi sono nella tua testa. Sì, assolutamente sì, volevo mettere su una band che avesse dei musicisti e dei cantanti contemporaneamente. Insieme. E quindi lui conosceva già Vale, con cui aveva già una band, con cui insomma avevano già fatto diverse cose, hanno suonato anche online in Jamming Festival. Le avete fatti lasciare, per cui e quindi sì, cioè, io sono il motivo per cui loro si sono lasciati. E l'amico batterista che mi ha lasciato, Francesco. Seguivo li seguivo nei vari pub. Tu bevevi mentre loro ci stalkerava. No, io gli chiedevo, ragazzi, ma perché non prendete un batterista? Perché erano in tre all'inizio. C'era chitarre. Abbiamo cominciato per i primi due anni in tre, con un set proprio acustico, ed era perfetto per Firenze perché ci sono tantissimi locali molto piccoli dove la batteria spesso dà fastidio, eccetera, eccetera. E io poi... do fastidio. Poi era... ma batteria sì, serve. Tu dai molto fastidio. Ma dai, la ritmica serve. No, la ritmica serve, però con due chitarre acustiche e un contrabbasso si fa... Cioè, state tanto. Dicendo, caro Francesco, sì. Per te gli Street Clerks finiscono qui. Cioè, io lo sto dicendo in un altro modo. Cioè vedete, due chitarre acustiche, cioè, lo stanno abbandonando, l'hanno preso. Sei entrato dopo, per cui dopo quanto? In che anno è nato la prima formazione? Voi 2007. Io nell'estate del 2009. Io ho detto loro, quando fate un concerto in un posto grande, chiamatemi se volete. È arrivato il concerto in posto grande, mi hanno chiamato. Cioè, in pratica noi abbiamo fatto tutta la fatica e poi è già di fatti è arrivato lui. Perché poi nel 2010, leggo ovviamente, avete vinto il Rock Contest organizzato da Controradio di Firenze. Insomma, sì, un bellissimo sì. Contest, uno fra i più importanti delle band. Sì, molto bello, vengono band da tutta Italia. Per cui avete vinto perché sì. Arrivato, c'era Francesco, c'era senza la ritmica, se vinceva. Poi l'età, insomma, avete dormito. Tu, Alexandre, quanti anni hai? 31. Quanti anni hai? 29. Francesco? 29, quasi 30. 29 anch'io. 29. Voi non prendete gente di oltre 30 anni, ce li abbandonate dopo. Sì, sì, sì. E limiti? Quando lo mettiamo? Cioè, limiti sta a guardare. Ma non è capito, è come le stelle. Sì, a dire, no, non è possibile, non c'è nessuno che abbia 30 anni oggi. No, è vero, c'è gente ancora già 30 anni. Ti rendi conto? No, ma una cosa brutta. Oggigiorno, nell'epoca... No, invece Samantha, tu quando hai cominciato a scoprire la tua voce? Ma io avevo, penso... Due anni, sì, due anni, perché... Ma non puoi sapere pure sta cosa! No, anche che no, lei... Dai. Lei ma aveva due anni e imparava a cantare con sua mamma mentre lavavano in casa i piatti, ragazzi, le cose, sì, guardatevi intorno è vero quando siete a casa. Giustissimo, io ho vissuto... Limiti è con voi. No, io, guarda, tu... Io penso che oggi sia la giornata più emozionante, Paolo, dopo... L'incontro con Bert, adesso non voglio assolutamente fare io parlo di entità, di emozione, di arte, no, con certo. Bert Bacharach. Abbiamo cantato Close to You insieme a Taormina. Ma ti rendi conto? Cioè, tu e Bert Bacharach, è vero che hai fatto la tournée con Mario Biondi, te e Bert Bacharach. È entrato anche nella mia vita perché la voce del silenzio la scelse e l'arrangiò lui. E quella è tua, nuova. Vero? La voce del silenzio sì, è roba sì, tua. Sì. Ma che canzone pazzesca. No, no, ma era come fa la voce del silenzio? Ti ricordi una lasamente, mi accorgo anche in silenzio. Non so, mi ricordo le parole. Non ti preoccupare, tata ha scritto lui, che te frega, dai. Na, che ha vissuto. Na, hai capito? No. È bella. Sì, come no. Madonna santa. Beh, beh, era per Bert Bacharach, dicevo che tu sì, hai detto sì. Che la prima volta che l'hai visto ti sei rimasta colpita, insomma. Beh, ragazzi, un ottantenne pazzesco. Paralizzata, ma una meraviglia, un carisma, un'educazione. Che è normale dovrebbe essere, no? Teoricamente ma non siamo sì, più abituati. Ma no, assolutamente, l'accoglienza, il baciamano, Una pomiciata, l'amore, ma due figli, ma dai, una cosa fantastica. Bartolomeo il primo e l'altra abbiamo chiamata, aspetta, chiamata Maribu. No, Elvis Costella, ha cantato insieme, no. No, vabbè, comunque. E San José l'altro. Comunque, per tornare a monte, avevo due anni, sì, papà e mamma, papà cantante, certo. Mettevamo il sabato mattina durante le pulizie di casa, io ero piccolina, ma seguivo loro, le canzoni Stevie Wonder, Dionne Warwick, Otis Redding, Percy Sledge e via dicendo. Beh, e questo io, si e fa io il sabato quello. Mattina a casa della gente. Certo. No, ma avevi l'istinto, perché una che viene acchiappata così, poi c'era proprio di suo, insomma. Sì, ascolta, perché ma già elaborato. Stevie Wonder, ma mi sono perso un po' di diotria al massimo, ma non mi è venuta quella voce. Per andare in pubblicità, mancano 2 minuti e mezzo, abbiamo il vostro album che è fuori da un annetto, sì. E si chiama si Fuori, chiama, sì. Però c'è il nuovo singolo, lo facciamo dopo il nuovo singolo, facciamo un altro pezzo del disco o volete proprio il nuovo singolo? Un altro pezzo. Ditelo anche Alexander, come si intitola, così almeno suona quel pezzo, perché non lo si deve indovinare scaletta. Lui, indovina. Non guarda che te fa fuori, amico, è partito tutto da là. E lui a quel punto, lo sai, che prende fuoco la batteria. Vabbè, è un pezzo che canta Alexander e si chiama Ovunque andrò, ovunque andrai, che è anche scritto Alexander. Che ruffiano, che fenomeno. A sentire puzza che la batteria la fanno fuori. La musica è mia, il testo è di Valeria Fanciano. Va bene, come Paul e John. Sai, un segreto è una verità, una piccola fiamma nel buio che nascondo, anche se altra cosa non c'è che desideri mostrarti in fondo. Ma ogni volta che non mi capirai fingerò di scappare lontano, partirò recitando il mio ultimo addio, ma verrò per cercarti ancora. Forse ritornerò tra un anno, altri cento, e seguirò le tracce che per strada lascerai, cercando i tuoi segnali tra deserti ed avvoltoi. Per quanto grande il mondo sarà a casa, ovunque andrò, ovunque andrà. Sai, un segreto e non l'ho detto mai, però tu me l'hai letto negli occhi, così chiaro che non ho saputo restare, ma verrò per cercarti ancora. Forse mi perderò, come sa fare il vento, e seguirò le tracce che per strada lascerai, cercando i tuoi segnali tra deserti ed avvoltoi. Per quanto grande il mondo sarà a casa, ovunque andrò, ovunque andrai, ovunque andrai, ovunque andrai. Sai il mio segreto, la mia verità, e verrò per cercarti ancora. E noi vi seguiremo ovunque andrete. A tra poco con Voice Anatomy. Voice Anatomy. Bentornati signori miei a Voice Anatomy, sempre in compagnia dei nostri straordinari ospiti tutti insieme. Poi ne avremo uno, il famosissimo attore e doppiatore di Milano, Natale Ciravolo, che insomma ha una storia da raccontare. Sapete che normalmente c'è sempre un attore e doppiatore all'inizio della trasmissione, questa volta era a Milano e ho cercato la punta di diamante di questa città per quanto riguarda il doppiaggio. Ma continuiamo questa strada, questa che abbiamo cominciato a percorrere. Voi avete cominciato con un talent, no? X Factor era la sì. decima stagione che sì. e lì siete nati. Cioè, siamo nati... No, nati no, nati nel senso abbiamo popolare, continuato. Avete scelto la strada del talent, no? Sì, è colpa mia. Tu hai fatto solo casino, è entrato con la ritmica e non ce n'era bisogno. Gli hai fatto fare un talent... Sì, io ho chiesto solo ce n'è stato bisogno. Lì però è nata la possibilità. In effetti io non sono sempre d'accordo sui talent, poi lo chiederò anche a Samantha e a Paolo. Perché possono essere delle scorciatoie suicide, perché sì. poi rischiamo di perdere delle persone straordinarie, ma vista la sconfitta, la depressione, uno lascia andare. Io credo se fossero nate adesso Rita Pavone, Morandi, Massimo Ranieri, avessero fatto Ti lascio una canzone, magari non avrebbero vinto e avremmo perso la possibilità della gestione di questi grandi artisti. Ma no, non lo so. Guarda, infatti anche, ne voglio parlare. Quando una volta andavi a presentare le canzoni nelle case discografiche, no? Perché ci si presentava, si portavano dei provini, certo, quelle cose, eccetera. E mica detto che ti andasse sempre bene, ti potevano bucciare, buttare fuori, magari avevi un talento strepitoso. E... lì tira fuori il carattere, lì poi il carattere di ognuno. Poi certo. la fortuna, metà fortuna. Metà... Però sono tanti talent, Paolo. Leva il fatto che ormai è diventato veramente già la produzione fatta bene, con grande attenzione. Anche chi non arriva, comunque si è messo in evidenza, perché la struttura, le luci, la fonica, lo spettacolo, le coreografie, le idee scenografiche sono importanti, per cui sì. non ne esci sempre comunque a testa alta, questo sì. Però c'è una miriade, c'è una follia di talent. Ma c'è una miriade di case discografiche, di produzioni, eccetera, che comunque hanno bisogno di persone, di nuovi volti da lanciare, eccetera. E poi si intreccia un po' con la fortuna, te lo dico. È tutto oggi come oggi. Devo dirti che forse c'è un vantaggio grande, che hai anche la possibilità, se hai veramente, sai, un po' di iniziativa oltre al talento tuo, certo, eccetera, di proporti nel tuo sito, a internet, ti vedono milioni di persone o centinaia di migliaia di persone, ed è importantissimo. Io sono d'accordo con te su un'altra cosa, cioè sul fatto che poi non li proteggano. Esatto, questo volevo arrivare, che comunque rischiano di cantare una sola estate, no? Sì, è vero. Dico, ok, fate andare bene il primo pezzo, il secondo difetta un po', grazie, ciao, ci sono i Bill Bolling, che quest'anno sono arrivati secondi a Bing Lindels, ed è finita. Magari loro, il secondo pezzo non andava bene, adesso loro, non è un caso, stanno andando benissimo. Non va bene magari il terzo, un capolavoro, cioè, non dai detto... la possibilità di crescere, quello non investono, non li proteggono, la parola magica è quella, esatto, che dici. Siamo una sola estate, perché appunto si pensava a Ulla Jacobson quando ballò nuda per una sola estate. Chi? Ah, si dice così per questo? Cioè, sa tutto. Aspetta, fammi sentire sta storia. È stato un film. Si dice balla per una sola estate. Ti prendevo in giro, perché ci fu un film che scandalizzò l'Italia. Allora, quando, se tu vedi la punta di un capezzolo di una donna, era finito, veniva censurato, il film tagliato, denunciati, eccetera eccetera. Certo. E al Festival di Venezia arrivò, ha ballato una sola estate con Ulla Jacobson, che visto, ed era completamente nuda questa qui, per cui fu una cosa incredibile che colpì tutta eccetera. Però ballò una sola estate, appunto, come dicevi tu. Ma era una digressione scema. Non è vero, diceva, è sicuramente profondamente filologicamente giusta. Poi parliamo, l'ultima manga a Parigi, quel capolavoro bistrattato qui. Che però ha lanciato il burro. Sì, lì la margarina, no, il burro, la margarina, ma non è importante, non è la trasmissione, non è gastronoma questa. Sì, adesso ci sono questi artisti one shot, fanno un brano, se la giocano in tutto in quel brano, e le case discografiche hanno il loro budget a inizio anno, lo stanziano per il loro talent, e se trovano qualcosa di interessante, bene, può essere che qualcosa vada avanti, ma altrimenti sono veramente lavori stagionali, sono tanti piccoli Sanremo adesso, che no? Mi dici, per quello che anche secondo noi c'è un gran l'equivoco di pensare che il talent sia cioè la discografia o l'arte, cioè comunque rimane un programma televisivo. Sì. Dopo ognuno ha il potere di state, al di fuori, certo, del talent, di continuare, di comunque ti dà l'opportunità di conoscere. E a voi è successo persone, esattamente questo, insomma, con Catalan, credo, rapporti, che sia nato. Poi se hai, non so, sai scrivere canzoni, se hai qualche se qualità, sei bravo arrivi. Io poi quello che auguro sempre, ragazzi, io spero che voi sbagliate all'inizio, che sbattiate la capoccia forte, non abbiate subito successo, cioè vorrei che uno scoprisse il successo quando lo sa gestire. Fare una gavetta, tu dici, una sì, gavetta. Sì, perché il rischio è non saperlo gestire. Se ti danno subito un Ferrari è difficile ricominciare da una 500 con rispetto. Sai, però oggi, 500. Oggi secondo me i tempi sono accelerati, c'è un metabolismo molto più accelerato nella canzone, per cui forse loro hanno ragione. Quello che io credo è, per quello che posso capire, che se io ho per esempio un quartetto come loro e mi piace, poi lo prendo e lo utilizzo immediatamente, lo butto nella trasmissione, lo faccio, eccetera. E questo c'è un mal costume invece, per quello che ho visto io spesse volte, per cui viene preso un gruppo, poi viene o va o arrivederci. Invece no, perché quando i grandi cantanti che sono ancora famosi oggi, quelli che ancora durano, hanno avuto alle spalle casa discografica, produttore discografico, ufficio stampa, eccetera, che li guidavano, magari sbagliavano anche loro, però avevano sempre, era un po' come gli studios di Hollywood di una volta, cioè c'era una mamma che ti proteggeva. Esatto, c'era un contratto. Avevi il tempo di imparare a fare il lavoro. Avevi il tempo, esatto. Potevi sbagliare, ma non ti cacciavano, ti tenevano. Certo, sì, sì. Io poi non ho dato in tutto questo il telefono, perché sembra una trasmissione registrata, non è così. Allora, è 349-238-6666, ma tanto lo conoscono. Io, mi sembra un numero diverso da quello di Roma, ho detto a Valeria prima e a Michele. L'hanno confermato che è lo stesso. Sono io che sto cambiando. Vabbè, comunque già arrivano, ma arriva il direttore e dice, per te, Voice Anatomy, Radio 24, finisce qui. Meraviglioso gruppo evoca il Far West. All'altro, bellissimi, bravissimi, trasportando il pensiero altrove, dove ci si ritrova corpo e anima insieme. Questa ha scritta Riccardo Fogli, che ha scritto. Anche il programma è mitico, grazie. E Pino Insegno è bellissimo, non è vero, l'ho aggiunto. Vabbè, siete meravigliosi. Complimenti all'inossidabile Limiti. Buona domenica. È possibile un assaggio di Diana? Ma dietro la a richiesta. E va bene. Allora, ma loro diciamo. Le sanno tutte. Sì, sì, no, jukebox C2. È come il jukebox. Yeah. Oh my darling, I'm so old. This my darling, I've been told. Le parole sono vere. I don't care just what they say, 'cause forever I will pray. You and I will be as free as the bird in the trees. And oh, please stay with me, Diana. È bellissimo. Beh, vabbè, dai. Bravissimi. Sembra John Lennon quando comincia a cantare, ma l'assonanza c'è, quella leggerezza nella voce, che poi parliamo di una voce non potente, cioè John Lennon è un grande interprete, sì. Però la voce, non parliamo di voce potente, questa voce un po' di maschera, di testa, ma sempre molto morbida. Beh, voi vi avvicinate moltissimo. Beh, io il complimento lo prendo subito. Sì, no, ma sai, a me mi riempiono di queste cose. Sembri Brad Pitt, Warren Beatty, cioè, queste cose per la strada sono le cose che mi riempiono di gioia. Cioè, la cosa più bella. Ma io d'altronde devo il mio successo al mio corpo, non ne faccio mistero. Adesso sto dimostrando anche di avere ma un cervello. Ma stai facendo una cosa curiosissima. La prima volta che vedo uno che è bello, lui è bello nella vita. Sì, nella vita, dalla vita, dalla vita in giù. Allora, dire, sì. Che si prende in giro come se fosse un brutto. È una cosa stranissima. I brutti di solito fanno con questa tecnica. Ma io in televisione sembro un abbacchio. Cioè, nel senso, chi mi incontra urla al miracolo, dice, ma sei magro. Sono normale. Addizione, schiaccia e allarga. Se sei proporzionato, vieni da Dio. Io sono sproporzionato nella faccia. Se, non so, sembra una melagotogna. Ma no, mi rivedo. Non è vero, no, non è vero. Assolutamente. Sì, però insomma, io volevo dimostrare al mondo che sono anche un uomo con un cervello da amare. Non sono un corpo da possedere, da sognare. Sono una voce che poi è diventata ormai la voce. I complimenti più belli, a parte gli scherzi, sono sulla voce, sul lavoro, eccetera. E in effetti al buio io do il massimo di me. Il problema è quando mia moglie mi tocca, sente che sono bianco. Va bene, ma una ci volta, sono delle domande bellissime. Paolo, una volta Pino mi ha detto una cosa bellissima. Mi ha detto, ma adesso basta parlare di me, piuttosto tu come mi trovi? Ma quella è una presa in giro della frase bellissima di Groucho Marx, che era basta parlare di me, parlami un po' di te, che ne pensi di me? Che mi salvò in un Costanzo Show, perché io insomma tutto mi manca meno che la parola, no? E anche se la dico sconnessa, e in un Costanzo una signora si alzò e disse, perché poi Maurizio mi faceva parlare che risolvevo la vita, e disse basta, ma parli solo tu. Imbarazzato, mi è venuta in mente questa frase. Ho detto, la signora ha ragione, basta parlare di me, mi parli un po' di lei, che ne pensa di me? Boato, sì, e mi sono salvato. Meravigliosa. E no, sono quelle frasi che te salvano, con un'altra bellissima di Groucho Marx. Abbiamo passato una bellissima serata, ma non era questa. E salutavo. Sono quelle cose straordinarie. Voi avete cominciato con un repertorio già vostro oppure no? Vi siete basati sulla musica degli anni 50 e 60, se non sbaglio? Assolutamente, no, sì. Vi siete proprio sì, siamo partiti facendo cover anni 50-60 e poi dall'arrivo mitico del nostro batterista Francesco abbiamo cominciato a lavorare anche sui nostri pezzi. Perché so che lui ha messo dei soldi veri per entrare, insomma, sì, diciamo sì, la verità, sì, come è andata. Sì. Gli abbiamo fatto un prezzo di favore perché esatto. Ci conoscevamo già, però... Per cui vi ha stimolato, a parte gli scherzi, lui è entrato e va dato questa ventata... Sì, diciamo che è arrivato nel momento in cui stavamo facendo un po' uno scalino, abbiamo fatto il Rock Contest poco tempo dopo, vincendolo, diciamo, questa ci ha data questa spinta, ci ha aiutato a portare avanti, insomma, cioè a avere più fiducia nel nostro progetto, chiaramente. Nascete come artisti di strada, sembra una volgarità, non è, è una cosa bellissima. Ci sono dei festival per gli artisti di strada in tutto il mondo, straordinari, dove veramente vedi l'arte vera, non quelli della strada al semaforo, eccetera, ma quella vera. E voi nascete così, avete suonato anche a Berlino, se non sbaglio, avete girato un po'. Sì, abbiamo suonato a Berlino, abbiamo suonato... È stata un'avventura un po' improvvisata, nel senso, siamo andati lì e abbiamo avete suonato? Sì. Come se io vado e mi metto al lì a Alexander Platz. Ma ci hanno rincorso con i cani sì, due volte, infatti poi abbiamo smesso. Consigliare a coloro che hanno che potrebbero avere la stessa idea di chiedere. Sì, state attenti ai poliziotti tedeschi perché non sono esattamente come i carabinieri. No, ma è libera, solo che noi andavamo nella metro loro, perché lì chiaramente tutti aspettavano e quindi e si sentiva molto bene, quindi insomma facevamo abbastanza e non si può fare. E nella metro non puoi, invece fuori nella piazza puoi suonare come vuoi, solo che in una piazza enorme senza microfonazione né niente dovevamo urlare, quindi dopo un po' sgolavate lì noduli sulle corde vocali. Noi abbiamo spesso dei vocologi e dei chirurghi in questa trasmissione che spiegano l'utilizzo della voce, che è affascinante, che è una cosa che io urlo ogni domenica. Spero che si metta nelle scuole proprio l'italiano, si mette l'inglese, il francese, ma l'italiano no. Cioè, uno, per carità, salviamo i dialetti, ma perché non parlare italiano? Ma soprattutto avere la coscienza di questo strumento come voi lo avete del vostro. Tu hai una chitarra e sai come suonarla. Noi abbiamo una voce e non sappiamo come farla risuonare nel nostro corpo. Non sappiamo respirare. E sarebbe bellissimo fare proprio il coaching nelle scuole. Ce l'hanno all'estero. Noi cercheremo di metterlo, anche perché i ragazzi saranno i futuri manager, politici, medici, parlare, comunicatori. Certo. Poi è una cosa che ti dà benessere, comunque, saper respirare. E tutto lì, voi lo sapete che cantate, se non respiri, Samantha, no, Paolo. La respirazione è la base proprio della parola. Certa gente parla senza respirare, parla di gola, strilla, perde la voce in un attimo. Infatti abbiamo i professori, siamo i noduli dell'insegnante. I professori, pagina 12, adesso, Garibaldi, e tu dici, non me vade a studiarlo. Io non dico che un professore dica, ok, pagina 12, Giuseppe Garibaldi, parliamone. Non dico questa, però non è la bella voce. Però questo punto le studentesse si intraderebbero sul venga professore. Sì, io mi sono diplomato all'ISEF, per cui ero professore di ginnastica, che hanno proibito in una scuola dove facevo supplenza, perché la puoi fare già dopo il primo anno, cioè i 19 anni, puoi fare già supplenza della tua materia nelle scuole. Sono in un magistrale che c'hanno 412 donne e 50 uomini, hanno proibito le gonne per quel mese che ci sono stato io. Arrivavo con l'Adidas acetata, in quel periodo c'era solo quella, cioè, quando c'avevi la tuta acetata, cioè, era il massimo, cioè, poi 19 anni professore di educazione fisica, ragazzi, bello come adesso, immaginate, si è trattenuto, che è una cosa bellissima, una cosa bellissima. Tu insomma, tu non hai mai cantato però, Paolo? Io sono stonato come una campana. Però sono stonato grande, proprio vero, cioè non c'è niente da fare. Riesco a cantare qualche cosa quando la conosco molto bene, allora riesco a riprodurla, ma difficile. Ce n'hai una? Noi abbiamo una base straordinaria qui con loro. Che cosa? Non credo, no, no. Un titolo difficile che non vorrei, conoscono. No, è meglio che tu non perda ascoltatori, dammi retta. No, li acquistiamo, tu lo sai. Poi c'è pianto, c'è gente, c'è boraccio. No, perché corrono e dicono, ma cosa, stanno castrando un'aquila forse? No, è vero, uno deve conoscere. Però sapete, Paolo, io più leggo la sua biografia, più mi rendo conto che serve un volume da Treccani, perché io non lo sapevo che tu eri l'autore di Rischia Tutto con me, Buongiorno. Certo, sì, sì. Lo so, non lo sapevo io questo. Sì, cerco di nasconderlo perché fanno subito i conti sull'età, per cui di solito... Vabbè Paolo, tu ti sei fermato, tu sei così da quando te conosco. Cioè, certe persone hanno la fortuna di essere così da sempre, sono grandi da prima. È vero. Cioè, tu non è che dimostri più età di quella che dimostri. Anche prima sembravi più grande, ma sai, sai cos'è? Tu sei sempre stato un uomo di mezza età, anche se c'hai 30 anni. Il fiore della bruttezza non appassisce mai. Ma, non, ma dai, una bella frase. Ma bisogna andare in pubblicità, vero Valeria? Che vuol dire quella cosa? Traffico, ha fatto così con le braccia. Altra importante, che... come sembra... no? Siamo domenica, hai voglia. Ho capito, ma sembra che mi stessi due cazzotti. Cioè, sei proprio uguale a Valerio, non mi mancate affatto. Va bene signori, solo traffico e poi torniamo. Va bene, a pochissimo, Voice Anatomy. Voice Anatomy. Bentornati signori miei a Voice Anatomy, sempre con i nostri amici, brevissimi ospiti straordinari. Veramente è bello fare la trasmissione insieme, normalmente li suddivido. E invece questa commissione, questa talk, ed è bellissimo, e questa radio proprio ce lo concede di talkeggiare un po'. Sentite, mi fate però ascoltare l'ultimo singolo oppure... Magari. Si chiama Tuxedo, è un pezzo in inglese stavolta, scritto interamente da Alexander Woodbury. Sono sicuro di questo, per cui Francesco non canta. No, io guarda, non suono neanche perché mi guarda male. Tu sto pezzo non suona, nel nuovo singolo non ci sei? No, certo che suono. Ah, suoni a batteria? Sì. Ok, scusami, io ormai telefonate per proteggere Francesco. Cioè, questo comunque è l'ultimo singolo di Fuori. Di Fuori? Sì, sì. No, di Fuori, Fuori è il titolo dell'album. Di Fuori è il titolo dell'album. Che in si cui trova? Suono anch'io. Sì, no, beh, sicuramente. Cioè, abbiamo provato una depressione fortissima. Cioè, non so come finirà uscendo da questa trasmissione. Ma perché volete farmi fuori? Ma non è così, è il titolo dell'album. you turning around. I, you love to sit and wait just to see the world go by. I, but read in your eyes something that you just can't hide. You can't hide. Get up and run, tuxedo, you still got time. Forget your sorrow and leave all your past behind. You have a chance to take it and make things right. Don't let it pass you by. When you're in the thick of it and everything appears to go wrong, call me anytime you want, 'cause I am here to help you go on. I, you'll find a better way, just get up and take a chance. I, 'cause what I'm trying to say is you've got everything it takes to come on. Get up and run, tuxedo, you still got time. Forget your sorrow. Yeah! Che bello, poi andiamo nel tempo, Sammy. Poi tu sei una lady in sole, poi parliamo di questo progetto straordinario. Assolutamente. Però questo è un gruppo che Paolo avrebbe preso sotto l'ala protettiva subito. Al volo. Trasmissione da te subito. Io devo dire che se c'è una cosa che mi è piaciuta quando facevo la trasmissione è di prendere le persone, cioè sentirle. Quando le sentivo mi piacevano, le prendevo e le tenevo dentro per un anno, due anni, tre anni, fino a sei anni. Per cui tutti i cantanti che poi avete visto. Vedi, a me non mi aveva mai incontrato. Siamo sempre lavorando insieme da sei anni. È divertente, perché è bello, perché ti diverti tu per primo. Ma tu hai sempre poi rivalutato anche la gente, invece di mandarle su un'isola. Tu, ecco, non hai fatto il tale, ma hai rivalutato, hai rimesso in evidenza, con l'evidenziatore, scusate il gioco di parole, persone che magari qualcuno si era dimenticato. Perché era secondo me era cosa importante. Io non ho mai usato l'età per nessuna cosa, anche di fronte, non solo per le persone, no, eccetera. No, cose belle, per me non è totalmente indifferente, non subisco il fascino, quello sì, perché è di oggi, è giovane, quello non mi interessa. Mi interessa il talento molto. Esatto, e questo è come la comicità, fa ridere o non fa ridere, non è quella moderna o quella antica. Resta, fa ridere, bene, è bella, esatto, la canzone o brutta. La migliore musica italiana tutta insieme in uno studio radiofonico, Street Clerks e Samantha, vi voglio bene, Giacomo P. E questo è come Melissa, questo wow, si fa, se pettina la sera. Caro Limiti, potresti raccontare di quando hai incontrato Janet Leigh, la regina della commedia doppiata da Rossana Calavetta, moglie di Tony Curtis? Rossana è la doppiatrice anche di Marilyn Monroe. Era deliziosa. Tu hai incontrato Janet Leigh? Sì, come no, certo. No, scusa. Janet Leigh era bellissima fisicamente, proprio come e poi la mamma di la figlia di Tony Jamie Curtis. E lei è stata, voglio dirti, un personaggio. Era abbastanza edulcorato quando è venuta fuori, però aveva questi occhioni grandi, eccetera. Non è mai stata, se ci pensi bene, una grandissima attrice. Sì, infatti, però Vivian Leigh, poi sì, ha avuto, sì. Janet Leigh è diversa. Ecco, però dopo ha avuto questi grandi colpi di fortuna, anche di, piaceva a tutti, per cui ha avuto poi anche dei copioni molto belli da poter. Devo dire, è stata una persona incantevole, era molto timida. Sì, più piccola di come non te l'aspettassi, eccetera. E per cui le ho fatto fare una fotografia dove lei sta per accoltellarmi. Ho preso un coltello e ho detto: fai come in Psycho, fingi di accoltellarmi. Lei è la protagonista di Psycho, quella sotto la doccia, quella che prende le coltellate. E l'abbiamo fatto, ve la farò vedere, bellissima. Beh, sì, è meravigliosa, sì. Mi stavo uccidendo. È fantastica, ecco la musica. Comunque siete grandissimi. Bene, d'età si riferiva a me, te, gli altri tutti. Poi altre cose sul doppiaggio, complimenti, eccetera. Poi che cosa dice? Vi ringrazio molto per Diana. Un doveroso saluto, Giovanni da Torre. Qui si firma. Ciao, Giovanni da Torre. Ma manda delle cose al 4550. Una cosa per se facciamo delle cose a richiesta. Senti, invece, stavo parlando prima di questo progetto, il Lady in Soul, sì. Un percorso tra le voci internazionali. Poi tu anche di Warwick, o sbaglio, hai conosciuto, lavorato, sì, è successo, sì, qualcosa? Sì, ha fatto La Voce del Silenzio, è lei che l'ha già l'ha fatta lei, ti chiedo scusa, sì. No, per carità. Pensa che è stato domande. Uno dei primi concerti, quello di Dionne Warwick e Burt Bacharach al Teatro Smeraldo a Milano, che adesso non c'è più, ci hanno aperto dei ristoranti. E avevo, penso, 12 anni, 10-12 anni col mio babbo. E io rimasi incantata ad ascoltare questi artisti pazzeschi. Lei è proprio il prolungamento di Burt Bacharach, di Dionne Warwick, che è quella che lui l'ha creata, in effetti. E poi aveva questo meraviglioso modo di comporre, secondo me, Bacharach. Sì. Aveva delle addirittura delle musiche quasi squadrate, mentre che ti colpivano, perché improvvisamente cambiava. Ma poi c'è gente che non lo sa, perché tu metti queste musiche e dici, Burt Bacharach. Questa è Burt Bacharach, questa è Burt Bacharach. Se ci fosse un tecnico del suono vero, come quelli che ho a Roma, come Valerio, già avrebbe messo un pezzo di Burt Bacharach. Ma lei può cantare Valeria, Valeria invece sta lì con i cursori e se ne frega. Va bene, poi dici che uno torna a casa a fare le trasmissioni. Va bene. No, guarda, Samantha, sta cercando. C'è Samantha, lo so, infatti, ma loro possono... Dove possiamo andare da Burt Bacharach? Quale? Ragioniamo, siamo in diretta. The morning I wake up. Bella, dai, quella. Sì, a say a little prayer. I put on my makeup, I say a little prayer for you. Yeah. Mannaggia le parole. Cercale. I dress to wear now, I say a little prayer for you. Con i BG se la sta cantando. Forever and ever, you stay in my heart, and I will love you forever and ever. It's stay in my heart, and I will love you together forever. Na na na na na, how I love you would only be heartbreak for me. Bravissimi. Sono le parole che la fregano, ma chi gli frega? Sono tanto le parole che mi fregano. Ho capito, ma Alzheimer, vai, sì, ma vai, no, amore, ma vai avanti diversamente comunque con la vocalità. Cioè, a me, ma chi se ne frega? Ma come chi se ne frega? Cioè, ma comunque la salvi. Io. Però devo dire che è bellissima, cioè, sono canzoni. No, sono pazzesche. Poi sono suonare pazzesche. Oggi che cambia. Sono, io lo faccio sentire proprio ai miei figli queste cose. Ed è bellissimo, le riscopri anche tu, e quando rivedi, anche fai vedere la tua città a persone che non la conoscono, la rivaluti, no? E così con la musica, fai questi percorsi insieme, è veramente bello. Ieri c'è stato il Festival Internazionale, come è arrivata all'Italia? All'Italia? Con l'aereo? No, all'Italia! Sì, sai che... la Michelin c'era? Sì. Non lo so, è arrivata sedicesima. È arrivata, sì, non è arrivata malissimo, però... Ma chi si sceglie per rappresentare l'Italia all'Eurofestival? Cioè, vabbè, parliamo d'altro. Esatto. No, per carità, ognuno già, beh, brava, credo, non è una cosa riferita a lei, assolutamente. Io personalmente, però c'erano dei pezzi da 90 ieri, io mi querela, però io personalmente avrei cantato in italiano, veniva dall'Italia, non capisco perché non l'abbiano fatta cantare. Ma cantate in italiano? No, a parte no. Tutta in italiano? Non lo so, si è creato sta cosa. Comunque, comunque sì. Cantava in italiano negli highlights. E forse nell'highlights. Non è che non è una cosa, non è un augurio brutto, perché uno ha detto highlights. No, veramente no. Gli highlights sono. Però lei ha tantissimi ascolti, tantissimi followers. Non che fra un po' diremo, ma ha cantato? Sì, finisce così. No, ma poi c'è stato Justin Timberlake. Che, ragazzi, quando arrivano questi, non c'è niente da fare. C'hanno il senso del business show. Ah, non è una voce indimenticabile. Mi confermano che abbia cantato in italiano. Ah, ok, vabbè, però non lo so, sai cosa ho guardato. Praticamente sei andata contro il tuo manager e oggi stai rischiando questo in realtà accade tutti i giorni. Però siamo onesti, è giusto. Tu devi sapere un errore e l'abbiamo subito ritrattato. Una donna ritrattato. Con quattro uomini, quattro feste diverse, ovviamente, ma proprio caratterialmente, gusti musicali. Tu dici, non è peggio, facile. Peggio quattro uomini o quattro donne? Perché, insomma, la donna... Beh, io faccio difficoltà. Poi loro sono bravissimi, però loro se si impuntano su una cosa è quella, non c'è verso. Per voi la maggioranza vince oppure no? C'è anche la minoranza può avere l'idea più giusta. No, ma poi tutte le cose creative sono fatte così. Sono le cose migliori, perché riesci, ti mette il dubbio e poi valorizzi se sì o no quello che hai detto. Perché stai dando il contrabbasso in testa a Francesco adesso? Dai, cioè, modo e modo per cercare di mettersi d'accordo. Io non arrivo vivo alla fine di questo. Secondo me mi odierai. Erano così contenti di conoscere, di stare insieme. Dice, beh, quando vi siete divisi? Beh, 2 anni fa, una trasmissione radiofonica su Radio 24 con Pino Insegno, ci ha messo uno contro l'altro. La manager ci ha denunciato per stalking. Cioè, Paolo Limiti se n'è andato offeso. Cioè, è successo un disastro. Stiamo andando in pubblicità, vero Valeria? Perché non mi dai mai l'orario? Perché invece a Roma Valerio mi dice sempre manca un minuto, 2 minuti. Tu invece mi stai mettendo in difficoltà. Invece il tuo amico Cruciani e tutti gli altri tratterai benissimo, non è vero? Va bene, allora andiamo in pubblicità tra pochissimo, vero? Ancora non è la pausa lunga, Valeria, vero? Puoi anche mettere, io leggo le labiali da lontano. Ah, c'hai anche l'interfono, alla sei cattiva. A tra poco, poi sanatomi. Poi sanatomi. If you see me walking down the street and I start to cry, each time it will walk on by. Pop, pop, pop. Questo sono io. Walk on by. But it's clear that you don't see the tears, just let me breathe. And the last time I see you, one breaks down and cries. Hai capito? È da seduta. Da seduta. La base era nostra, eh? Sì, erano i Street Clerks. La voce era di Francesco, straordinario, ma non sai dove sei seduto per fare sta voce. Va bene! E poi sanatomi, non fa miracoli a questi livelli. Complimenti, complimenti, complimenti. A parte c'è questo Giuseppe Ciampi che scrive sempre per altre trasmissioni. Si capisce? Io certo me la sono presa con me, dico, ma che ho detto di male? Ma invece questo scrive. Ciao Pino, è una gioia sentire la tua voce alla radio. Va bene? Vabbè, complimenti. Puoi dire a Francesco degli Street Clerks che io li seguivo già da prima, ma quando è arrivato lui è stato tutto un altro beat. Era ora! Baci a tutti! Tutto un altro beat! È bellissimo! Perché io tiro in avanti col ritmo. Tu tiri in avanti, sì. Attento a dire ste cose. Non è bello già l'ambiente dello spettacolo, si chiacchiera un po' troppo. Allora, adesso con Catalan, che adesso sta facendo i provini, abbiamo tentato di averlo almeno telefonicamente, ma è impegnato con i provini, oppure vogliamo tentare di... Ma no, possiamo provare. E dovete dare il numero, non puoi chiamarlo tu da qua, devi dare il numero alla redazione, okay, allora va. Che insomma, tu vai un attimo, adesso verrà qualcuno a ritirare il numero, o vieni, vai tu da loro, sì, cosa che ha fatto casca tutto, ha fatto tutto quanto. Senti, so anche che siete figli d'arte, un po' tutti, parlava prima Alexander, papà, sì, mamma, cantanti lirici. Cantanti lirici, sì, hanno cantato. Al Maggio Musicale continuano la loro carriera, non so, tu sei giovane, per cui mio padre ogni tanto si fa qualche concerto, si lavora soprattutto come insegnante di tecnica, sì, vocale, loro, con i cori. Vorrei averlo anche lui, perché cerchiamo di avere sempre i migliori tutor per i nostri ascoltatori. È stato un grande insegnante anche per noi. Tu, sì, hai trovato chiuso invece quando non c'è stato niente da fare. È stato un grande insegnante. No. È inutile. È stato il cantante lirico. E invece tu, Francesco, anche tu figlio d'arte, sì, o come figlio me d'arte, figlio d'arte, figlio no, figlio d'arte, sì, figlio, sì, d'arte. Sì, sì. Figlio d'arte. Miei sono professori di una materia dove ci sono tanti numeri. Matematica, statistica. Tutte e due di statistica. Tutte e due fanno lo stesso lavoro. E si sono incontrati al Maggio Fiorentino anche loro, mentre sì, stavano, certo, vedendo, certo, i genitori che cantavano, si sono innamorati, esatto. E tu sei nato anche, cioè, della stessa età, per cui due professori universitari. Il nostro contrabbassista? Io no, non sono figlio d'arte. Non sei figlio d'arte. Mio babbo è un ingegnere, mia mamma... Sono figlio d'arte di mia mamma per quanto riguarda la cucina, se vuoi. Tu cucini bene? No, diciamo che sì, è una passione, ma... Vabbè, uno per quanto riguarda il contrabbasso non ho avuto degli input particolari. E invece Valerio? Io, mia madre, allora mio padre si suonava la chitarra ma poi ha smesso, invece mia madre è un'attrice, lavora insomma nell'ambito del teatro da sempre. Per cui è mia collega. E quindi anche vocalmente, diciamo, mi ha molto aiutato, mi ha insegnato un po' le controvoci, così, ma per passione sua, però insomma sì, questa, sì, è, poi uno, lei mi ha avvicinato. Non ascolta mai le persone che ha più vicino, no? Perché c'hai un papà che fa quello, no, sono sempre meglio i papà degli altri. Eccetera. Ma tutti dovremmo crescere con i papà degli altri, saremmo molto più attenti. Si può dire nipote d'arte? Sì, anche... i nonni erano un duo. Cioè, questa è andata a cercare come i giocatori brasiliani che vogliono giocare con la nazionale italiana, uno zio di quarto grado che si chiamava Mario. Beh, i miei nonni erano cantanti di Balera, avevano l'orchestrina. No, e... tu nonni stavano in galera. E è una storia coatta molto difficile. Dici, ho capito male. Cantavano per passare il tempo, ma stavano in galera. Mi permetto di giocare con loro, sì, ovviamente, sì. Perché poi fanno questo anche di mestiere. Sono sicuramente. Samantha, difendici. No, no, ma siete ironici. Ma è che solamente con Cattelan ridete, scherzate e fate. Sì, allora, sì. Stanno tentando. C'è il dottor Cattelan al telefono? Buongiorno. Oh, carissimo. Come va? Ciao. Ciao Ale. Piacere di sentirti per la prima volta in... Piacere mio. Piacere Ale, perché stai facendo veramente un bellissimo lavoro, e stavo parlando a loro di autoironia. Francesco pensava che fosse la marca di una macchina l'autoironia, invece gli ho spiegato che è qualcosa di più divertente. Ecco, tu stai facendo un lavoro bellissimo, cioè stai valorizzando tutto ciò che ti è intorno, dal tavolo dove parli, alla penna che muovi, alle persone che hai intorno, che siano famose o no, riesci a dare veramente il giusto peso, la giusta vocalità, il giusto divertimento. Veramente. Grazie. bravo davvero. Per uno poi abituato come me a vedere i format anglosassoni, americani, eccetera, tu sei riuscito per primo proprio a tradurli bene, come quando uno cerca di ricantare Stevie Wonder ma non ci riesce, a ricantare magari un altro cantante famoso, eccetera, non c'è. Tu sei riuscito proprio a declinare in maniera ottima e renderlo nazionale, un discorso non facile davvero. Ci tenevo a dirtelo, non potevo dirtelo tramite Sky. Quell'interattività ancora non c'è, Ale, per cui sì, grazie mille. Senti, è colpa tua di questi ragazzi. Volevi dire qualcosa, Francesca Cattelan? Ciao Ale, come grande. Stai? Ciao Bomber. Ma non sei a fare i provini? Sta facendo. Ho finito adesso. Sì, ho lasciato la piazza mentre stavano ancora castingando i nuovi voi. Hai urlato? I nuovi noi. Sì, perché per voi adesso c'è Cattelan, finisce qui, ragazzi. Esatto. È finita. Esatto, dall'anno prossimo vediamo cosa troviamo qua in giro. No, tutto bene. Sì, è colpa mia. Tua. Anche di mia moglie, in realtà, perché alla festa dell'X Factor a cui parteciparono loro, mentre venivamo via, loro stavano suonando ormai fuori concorso per puro divertimento. Io sapevo che dovevo cominciare col programma e mia moglie ha detto: cazzo, che bravi che sono però loro. Nel programma non erano usciti così. Io ho detto: sì, c'hai ragione, è vero, dovremmo lavorare. Nascono così le cose, sì, è vero, allora sai. Ale. Il lunedì mattina ho chiamato Valerio a nome di tutti e gli ho detto: ma vi interesserebbe? E loro hanno detto: sì. Stavano già sotto casa. No, ma nasce così. Tu pensa, e pure noi con la premiata ditta è nata per caso. Noi eravamo l'Allegra Brigata, avevamo già lavorato in televisione con, parliamo di 35 anni fa, con Bramieri eccetera, ma eravamo 12. Una sera una festicciola fatta da Boncompagni, che lui è un grande goliarda divertente, noi andammo lì dopo teatro a mezzanotte e cazzeggiavamo, ma c'era chi era fatto di alcol, di qualcos'altro eccetera, scherzando eccetera. Era l'una di notte. Il giorno dopo Boncompagni chiama Roberto Ciuffolo e dice: perché non formate un quartetto, perché è nato adesso il trio Aldo di sì, magari ancora non c'erano Marchesini, Lopez e Solenghi, vorrei un quartetto, due donne e due uomini, perché voglio mettervi a pronto chi gioca. Ed è nata così, per caso, perché lui ha visto cazzeggiare questi pazzi senza la paura di essere ascoltati, perché magari quando c'hai paura cerchi di dare il meglio e fai un casino. Certo, sì, fai le peggio figure. E involontariamente, ma nascono così le cose, però ci vogliono anche persone attente come le nostre mogli, sai Ale. Tanto sono loro che ci governano in qualche modo. Esatto. Mi farò sentire anch'io cantare da tua moglie sotto casa, dice, visto mai. Non si sa mai. Ale, senti, sarai sicuramente stanco, era soltanto una testimonianza, volevamo ascoltarti e salutarti, fatti in bocca al lupo e ringraziarti del lavoro bellissimo che stai facendo. Grazie mille, in bocca al lupo a voi e ai ragazzi per la loro musica. Va bene, salutate ciao. Il capo. Ciao Ale, ciao Ale. Ci vediamo lunedì. Ciao Bombe. Poi c'è Cattelan lunedì. Ma faccio io la voce fuori campo quando vuoi. Va bene, noi mancano 3 minuti se non sbaglio, 2 minuti, sì, niente proprio. E poi c'è la pausa lunga? Sì, quella che dura col telegiornale 10 minuti? Io chiedo, ma perché prima delle qua, ma non ho capito niente, ma comunque andiamo avanti. Stavo un po' giù di voce, Alessandro, l'hai sentito? Sì, molto, sì. Ma quando devi stanco, urlare una piazza intera è vero, però no, ma poi lui giustamente poi canta anche, perché sa cantare sì. Molto bene eccetera, però ecco, usare la voce serve anche a salvaguardarla in qualche modo. Non è il caso di Alessandro, che sicuramente sarà un po' raffreddata, stilato come un pazzo per ore, sì, però sì. Anche in quel caso puoi salvarla in qualche modo, la voce serve tanto esercizio. Ed è fondamentale, certe volte basta un urlo fatto male o no, trovare una voce. Io quando vado allo stadio, per esempio, ecco, faccio sempre l'urlo fatto male. Io, ringraziando Dio, vado allo stadio, ma non urlo mai perché insegnano mai, per cui io la mia voce, la mia squadra me la salvaguarda tranquillamente. Ma anche io urlo perché non segnano. Sì, allora sei matto, no? Però devi salvare la tua voce, devi saper usare, spingi col diaframma, metti in maschera e te salvi. Così entro più il papà e la mamma di Alexanderson. No? Voi siete tutti tifosi? Sì, cioè, abbastanza. Fiorentina. Sì, stasera siamo litigati, allora. Ecco. C'è Lazio-Fiorentina, ecco. Ma state tranquilli. No, ma ci va sempre male con la Lazio. Sì, è vero. Sì, questa ma tanto è l'ultima. Fino. Ma sì, non credo che cambi. Per voi cambia qualcosa, no, per la Coppa? Per noi no, niente. Sto prendendo il posto del mio amico del calcio, che è nei dintorni. Avete visto Capuano in giro? Perché non viene un attimo in studio Capuano? Tutti convocati, chiamate Capuano, convocatelo. Convocato, perché l'uomo che sento sempre dopo questa trasmissione, c'è tutti i convocati, che è la trasmissione sullo sport straordinaria, e lui mi dà sempre le notizie che io non voglio ascoltare, e lui si chiama Mai una Gioia, perché cioè, non mi dice mai una volta, mai, una mai, no, mai dice giusto, mai dice brutto per me, cioè non ce n'è mai una bella. Voi, forza Lazio, vabbè, che c'entra, pure i messaggi così. Inglese ottimo, bravi Carlo. E lo dice, grazie. È un traduttore di latina lui, eh? Attenzione, qui il pubblico di Radio 24 c'è, cioè, non nessuno. Li conosci tutti? No, beh, no, sono loro che sono molto attenti, cioè, non puoi sbagliare, qui ti riprendono e ti mazzolano davvero. Allora, stiamo andando in pubblicità, ma è ancora quella breve questa pubblicità. Grazie del tuo... annuisce e basta, è come Valeria. I guazzetti sulle macchine, Valeria, quelle muovono la capuccetta piano piano così. Allora, rimanete con noi, loro rimarranno ancora un blocco con noi, poi se vogliono rimanere di più sono certo, ovviamente i nostri certo, graditi ospiti. A tra poco con Voice Anatomy. Voice Anatomy. Eccoci di ritorno, vicino, mi ha raggiunto, è incredibile, dare un corpo a una voce è la cosa più bella del mondo, anche se ogni tanto le voci, no Paolo, hanno bisogno di rimanere tali, senza, sì, non senza vedere il corpo, e non vedere i contorni, certo. Non è il caso di Capuano. Capuano. La cosa incredibile, ecco, è che lui tu mi parte dai sempre così, un mi parte corpo a una voce e lo fai in una domenica in cui sai che non ti posso dare. Esatto, l'ho chiamato notizia, perché non giocano, non giocano una gioia caso, mai. Mai una gioia. Poi mi dice sempre che no, la Lazio ha segnato al quinto minuto. Dico, ah, che bello, però gli hanno fatti quattro dopo un quarto d'ora. Dico, ma state zitto. Insomma, Capuano. Parla del derby, eh. No, no, no, no, io ormai il derby seguo altro. Mio figlio gioca col Teramo, per cui abbiamo vinto con l'Aquila 4-1. Quello è il mio derby, è stato quest'anno, guarda. Inglese ottimo, e non i soliti borbottamenti, quell'italiano pessimo, che a volte si sentono. Bravi, bravi, eccetera. Caro Paolo, il doppiaggio italiano, gli attori di Hollywood che hai incontrato, gli hanno mai espresso un parere? Sì, che erano meravigliosi, secondo loro sempre abbiamo contenti, le voci più belle del mondo. Sì, no, d'accordo con loro, non posso biasimarli. E poi che dicevano quest'altro, no, ma poi l'inglese, no, no, l'inglese basta così, ma però l'inglese, quello, tu parli inglese, Capuano? Ma sì, giusto, giusto. The boy is in the garden. The dog is in the garden, ma why siamo sto oltre, dog siamo is oltre in the garden? Siamo oltre, siamo oltre. Ma ti lasciano sempre solo, gli altri due moschettieri? Guarda, gli altri due moschettieri, uno è in giro per l'Italia, tu lo sai, sì. Pierre, e l'altro arriva con calma, prima delle 17, perché poi... ognuno ha il suo ruolo. Io ti ho voluto adesso intanto conoscere, perché mi fece tanto piacere fare la tua conoscenza, ovviamente, ma anche perché l'ultimo blocco ho un'intervista bellissima esclusiva di Gianni Musi, che è un grandissimo doppiatore che non è più tra noi, la voce di Gandalf, la voce di Silente, eccetera. C'è un'intervista che mi ha dato gentilmente il mio amico Andrea Razza dell'Enciclopedia del Doppiaggio, e mando 10 minuti, una voce che non c'è più, che vorrei farla poi ogni puntata, un saluto a quelle voci straordinarie che ci hanno accompagnato una vita, che sono nell'immaginario collettivo, Sidoli, di tutti la noi Lattanzi. La Lattanzi Pino Rinaldi, no, voglio farli insieme a delle persone che conoscono perfettamente quell'ambiente, perché poi quelle voci, quegli attori avevano quella voce. John Wayne era Cigoli, non era altro. Cioè, se tu senti Marlon Brando, non aveva la bella voce, e anche giusta, di Peppino Rinaldi. Marlon Brando è una voce nasale con corpo straordinario. C'è un documentario che dovete vedere, è uscito da poco, che è l'ho visto, Talking l'ho visto to Me, sì, sì. Marlon, cioè, una cosa pazzesca. Hanno ritrovato migliaia di ore di nastro registrati da Marlon Brando, fatti da lui, che racconta la sua vita e la sua morte. Ma non solo, ma hai visto che si è pazzesco. Fatto fare anche delle specie di ecografie della faccia. Sì, con il laser. In modo che così almeno potete, quando sarete un po' più avanti, potete fare un film come se io fossi vivo ancora, perché potete ricordare. Infatti, lui che parla di faccia. Se stesso, ma è una bellissima. Cosa pazzesca. Sì. Però lui ha una voce: I never know why, why, così. È così. Una vociaccia. Sì, nasale. Bravissimo, fisico della Madonna, ha fatto un primo provino con una faccia pazzesca, ma la voce non si poteva sentire. Cioè, è vero, è sì, così. Sì, sì, e il doppiatore nostro italiano l'ha reso immortale, ha dato una voce non pesante, giusta. Poi Peppino Rinaldi ha anche la voce di Peter Sellers, passava da Jack Lemmon a Marlon Brando a Peter Sellers, capito, in una maniera pazzesca. Sono straordinari, sono voci veramente belle. C'è anche un po' di patologia nel farsi l'ecografia della faccia. Sì, no, non era sano. Potrà, l'ha detto anche nel film stesso, lo dice, non era una persona dilaniata dalla vita, l'ha dilaniata lui e la vita ha dilaniato lui, insomma, un figlio in galera, una figlia giovane, bellissima, suicida, una vita d'amore. Tracimante d'amore, di possessione, di orrore, no? Non era amato da nessuno più. Senza regole, senza regole. Senza regole. Ma noi belli siamo così. Noi, io devo dire, dai, ma perché scatta? Questa volta ti è uscita. Ma so, perché lo penso. Capuano, hai abbassato gli occhi. Non hai riso, ma hai abbassato gli occhi. Hai ragione, condivido. Noi belli è così. Allora era cazzata. C'era uno che aveva una voce diabolica, te lo ricordi? Come si chiamava? Stefano Sibaldi. No, anche Sibaldi. Sibaldi aveva una voce del diavolo. Un po' parlate, sì. Quelle cose romantiche antiche, perché prima si timbrava la voce anche nei cantanti, insomma, era educata, nel senso tu sentivi la voce fino alla fine, cioè il verbo lo sentivi finire. Nei film quello diceva: dobbiamo andare da quella parte, non si sente come adesso: dobbiamo andare da quella parte, già, d'accordo, cioè più buttata, più sporca, anche se nelle fiction si è persa totalmente la voce. Perché ormai non si finiscono le parole, non sapendo recitare. No, ma non si vedono neanche i sincroni di loro, adesso, molti bravi, ovviamente non discuto quelli bravi, discuto quelli improvvisati, che dicono: dobbiamo, ti ho detto mi, che così, e dici: cazzo, mi sei rotto il televisore un'altra volta, no? È così. C'è lo streaming che non va. Sì, perché se tu sono moderni. Tu fai urlare una persona, la fai recitare, o urla o parla. Io posso far recitare a Paolo, che non è un attore, l'Amleto, se lui lo soffia, come fanno certi, si può fare. Anche nonna Dina ci riesce a fare. Essere o non essere, questo è il problema. Se sei più 9 o 10, ma che sta di... Oppure urlano all'improvviso. Perché quello è un modo anche di cantare. Tu cantare devi arrivare, ti è la nota, no? E prova, è lì che senti veramente chi sa cantare, no Francesco. Capito come ormai ho messo in mezzo, però Francesco mi odierà. Che poi in repertorio invece c'è un pezzo che canta lui, lo sai? Cos'è? Certo. Ma non lo dobbiamo sentirlo oggi? Ma io lo so, io c'è. Ma dai, io ho l'allergia, per questo è che la voglio sentire. Guarda. Si può fare un pezzetto tuo, dai, Francesco? Fallo, riprende fallo, dai, Alexander fallo. Il suo posto e ringrazio Capuano. Ti volevo vicino a me. Ti volevi? No, ti posso dare una notizia? La Ferrari non vince un gran premio nemmeno se le Mercedes ha si perso? Scontrano alla prima curva. Ha vinto Toro Rosso? Ha vinto Toro Rosso, sembra film western. Con la Red Bull. Red Bull, Toro Rosso, ma che c'è? Quindi ci sono due notizie. La prima è che senza le Mercedes la Formula 1 può anche essere divertente, siamo rimasti tutti svegli. Questa è una notizia. La seconda è che la Ferrari ma non neanche vince, secondo non terzo, vince quarto. Nemmeno. Come è arrivata? È arrivata seconda con Raikkonen e terza con Vettel. Ah beh, però non ha vinto il Gran Premio. Però non ha vinto il Gran Premio. Non ha approfittato. Sempre mai una gioia. Capuano, mai una gioia. Non gli chiedo come andrà stasera la mia serata, perché mi dirà: attento, perché stasera faccio: allora buonasera signori. Ha chiamato Pino Insegno. Grazie Capuano. Ciao, applauso grazie di ciao, ruolo. Riprende la cuffia il nostro amico Alexander. Quanto manca per andare in pubblicità, Valeria? Abbiamo molto il senso. 2 minuti e mezzo? Meno male, perché devi cantare a Francesco. Per cui. Guarda, fate pubblicità ora. Ti voglio bene. Vai. Pronto? Vai. 1, 2, 3, 4. Well, someone told me yesterday that when you just don't care, you act as if you're going somewhere, but I just can't convince myself I couldn't live with no one else, with no one else, and I could only tempo. Bello, bravo Franci. Però pietà, Pinuccio, bravo. Ci riesci a far parlare sul limite almeno per 15 secondi? Non è straniero. Chi l'ha detto? No, no, no, caro Paolo, hai mai intervistato Tony Curtis? No, no, Janet Leigh, ma non ho neanche mai incontrato. No. Caro Pino, dovendo tu analizzare le interpretazioni originali per poi doppiarle, dovresti sapere perfettamente l'accento inglese. Vabbè, c'è la pubblicità, no? Quanto manca? No, in un inglese particolare, ho le forme idiomatiche, io parlo certo. Soltanto quando incontro delle persone anglosassone, ovviamente parlo con le frasi dei film. Ho conosciuto una ragazza americana bellissima anni fa, ma proprio di 20 anni fa, e gli ho detto la frase di John Smith che avevo doppiato Pocahontas in inglese. Ho detto, ma ti piaccio? Ho detto, mi piace stare con te, preferisco morire domani che vivere 1000 anni senza conoscerti. In inglese ho fatto, ma è Pocahontas. Lo sapeva. Ma sarà nata. Ho detto, sì, è Pocahontas, però mi piaceva perché sono messo il doppiatore italiano. Ho detto, what's dubbing? Ho detto, ciao. Me ne sono andato. Io devo spiegare che cos'è il doppiaggio che non lo sapevo. Questa è la mia realtà. Insomma, ci gioco ogni tanto, ma mi dice veramente male. Signori, non so se dobbiamo andare in pubblicità, c'è tutto quanto, ciao ciao, rimanete ancora, aspettate 10 minuti o dovete scappare? Ditemi no, sinceramente. Sì. Parliamo con la nostra manager, Sam, che facciamo? Ma che scherzi, chi se ne va? No. Perché dai, viene anche qua. Ciravolo, Natale con voi e chiudiamo insieme se volete, poi c'è, insomma abbandonare. E allora, a tra poco, no, fra 10 minuti con Voice Anatomy e Radio 24, continuate a stare con noi, grazie. Quale sarà il futuro di Milano? E di Roma? E Torino? Napoli? Bologna? Fino al 29 maggio non perdere la programmazione speciale di Radio 24 per le elezioni amministrative. Reportage, interviste, inchieste e approfondimenti quotidiani dei nostri inviati per capire, confrontare, interrogarsi e scegliere chi guiderà le nostre città. Da Roma a Milano, passando per Torino, Bologna e Napoli, viaggia con noi verso le elezioni più discusse del 2016. Segui le amministrative di Radio 24. Dai valore al tuo voto. Il segnale orario vi è offerto da... Index protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it. Voice Anatomy. Ed eccoci di ritorno. L'amico Paolo Limiti vuole salutarvi perché sta per andare giustamente a qualcosa da fare. E io lo ringrazio veramente di cuore. Vi voglio un bene dell'anima, ma come tanta anch'io, gente, Paolo. Non vedo l'ora di fare qualche cosa con te, veramente, come ci siamo detti un sacco di volte. Un no, figlio. No, nessuno è perfetto. Non posso averne. Ormai ne tanti. 3. Vabbè, possiamo farne un altro. Ormai si può fare tutto. Uno in più. È stato bellissimo, ragazzi. Samantha, davvero complimenti. Io. Sono sicuro che vi rivedo e vi sì. Riesco. Va bene? È sicuro. E se vuoi scrivere una canzone anche per noi, noi è vero. Non disdegniamo, cioè, che dite? Non dirmelo due volte, che è già quasi pronta. Ci siamo. Cioè, tanto dopo vi do i numeri e ve li scambio con quello di Samantha. Va bene. Grazie, un bacione Paolo. A tutti. Grazie, arrivederci. Ciao, ciao, ciao, ciao Paolo. Ciao. Grazie. Ciao. E allora siamo tornati negli studi e ci ha raggiunto una voce. Insomma, lui voglio raccontare intanto. È nato a Campobello di Mazara. Dov'è? È già questo. E dov'è? È il profondo sud, Trapani, Marsala, Mazara del Vallo. Sei siciliano, sì, terra meravigliosa, senza siamo, nulla togliere questa nazione. Siamo dappertutto. Sì, ma noi italiani siamo dappertutto. Però è bello, tu da là, vai, poi ne parliamo, continuo. Il 18 ottobre posso dire la data, perché tanto sei un uomo, non ho detto i 62 anni di Samantha, però. Sì, sì, poi nel 1950 è un attore, un doppiatore italiano. È conosciuto soprattutto per aver doppiato due personaggi che sono entrati nella leggenda. Uno è Tom Selleck nella serie Magnum P.I., sentiremo un momento, e William Shatner nella serie Star Trek, il comandante Kirk Enterprise. Tu l'hai fatto Kirk Enterprise. Tu eri un bambino. Sì, no, c'ho un inizio già di prostatite, ma lui era quello che diceva Kirk Enterprise. Dimmi Kirk Enterprise. La cosa era spazio, ultima frontiera. Ah, quella era sempre tu, eri? No. Sì, era un collega, all'inizio ero io, poi dopo era eccessivo. Vedi, se Valeria fosse pronta, registica. Avrebbe già messo... Neanche a voce la fa, me la fa Samantha, la sigla di Star Trek. Ai ragazzi non gliela chiedo, conoscete un po' Star Trek? Sì. Fa parte delle serie di una volta, ma quelle storiche. Col pigiamino. Francesco, cioè, sta indicando. Sappiamo, fai un sì. Vai, voce. Bellissima. Kirk Enterprise. siamo su un pianeta sconosciuto. Dobbiamo cercare di individuare se è abitato o meno. Qui purtroppo è abitato. Sulu, pronto? Sulu! Signore, sono qui, signore! Meglio Sulu che Malacoma. Grazie ragazzi, che bello. Questa. Li sto utilizzando come fa Alessandro con loro, sto approfittando. Io vi ringrazio davvero di rimanere ancora qui. No, davvero. È veramente bello questo co-branding, questa joint venture. Farà... Anche perché io e te da soli, così se vanno via, no? Con limiti, io e te da soli. Posso salutare intanto gli ascoltatori? Perché devi, non, devi, non ho devi detto buongiorno, buona domenica. Esatto, siamo in diretta, quindi assolutamente quindi. Sì, sono le 16:08 e 34 secondi. Ed è appena finito il Gran Premio. Esatto, lì ci ha dato la bella notizia già il nostro amico. Vado avanti, insomma, e poi Chuck Norris anche doppiato a partire dagli anni 90 è la voce narrante degli spot e dei programmi delle reti Mediaset. Sì, anche sì, quello. Sì. Ah. Vabbè, pubblicità, insomma, poi vabbè, Milano, sì. Milano è la base della pubblicità. Se vuoi, devo partire dalla valigia con lo spago? Dimmi tu. Sì, parti da là, mi devi raccontare. Dove è cominciato? Hai fatto teatro? Perché sì, poi... tutto è cominciato da ragazzo. Avevo 16 anni, 15-16 anni. Poi insomma è un piccolo paese della Sicilia. No, io ho fatto il collegio in Sicilia, le scuole medie. Poi sono andato da emigrante. Voi non viaggiate, voi emigrate, come dice Troisi. Quindi della Svizzera tedesca, figurati. Quindi all'interno della comunità italiana, del paesino, io mi dilettavo a presentare, ero, nella mia timidezza sul palcoscenico diventava qualcos'altro e quindi anche adesso sono molto timido, parlo. Sono anche un po' di... Guarda che il vero attore è timido. Sì, sono timidi, no, ma ho le mani sudate. Guarda. No, ma è così. Uno attacca, uno deve imparare ad attaccare per cercare di prendere la posizione su un palco. Io credo che anche loro quando cominciano un concerto, il giorno che finirà quella timidezza, finirà il nostro lavoro, finirà l'emozione. Assolutamente. È inutile, quando dai per scontato che la gente ti starà ad ascoltare, che andrai bene, che sarà bello, è finita, perché poi se va male non ti rialzi più. Insomma, poi per motivi della vita familiari rientro in Italia e dopodiché conosco una contessa, una vecchia contessa ex attrice a Parma, che mi dà i primi rudimenti della recitazione e mi prepara all'esame di ammissione all'Accademia di Milano. E sono entrato su 200 e passa iscritti, mi hanno preso, bontà loro, e però è stata dura perché avevo come insegnante di dizione la Dora Setti, che era la sorella della moglie dalla chiesa, no? Questo ci deve essere Paolo Limiti qua, perché questa è roba sua. Lui è la memoria storica, ma io sono la memoria storica del mondo. Le mie cose sono... quando andrà via fra 50 anni ci avrà una scatola nera e l'apriremo, lì ci saranno veramente dei... No, io ricordo poche cose perché la memoria sta andando, essendo del 50. Comunque, che stava di? C'è ragione, non stai bene. Ero rimasta a Parma. No, insomma, e da lì l'insegnante di dizione, sì, mi hanno preso perché hanno visto in me delle qualità. Però dicevo il sole. Mi dicevo. Se sbagliavi già il sole. Insomma. Fatica, ancora oggi quando sono molto stanco ritorna quella cosa. Ce l'hai la cadenza siciliana, l'hai mantenuta? È bella. L'ho utilizzata qualche volta. Ma il dialetto è fondamentale, bisogna tenerli vivi. Che poi bisogna anche imparare a parlare l'italiano corretto, però è giusto. Mi piacciono moltissimo i dialetti, infatti mi piacciono. Sono straordinari, c'è una storia, sono lingue, poi non è proprio... E poi, conoscerai anche tu... se tu per esempio pensi un personaggio quando fai in teatro, soprattutto lo pensi nel tuo dialetto, anche se io ho vissuto pochissimo in Sicilia, però acquisisci delle intenzioni, cioè delle cose particolari che ti aiutano poi nel fare il personaggio. È quello che facciamo nel doppiaggio, quando capita di doppiare quegli attori neri americani che parlano uno slang molto violento, eccetera, allora devi sporcare la voce significa dare un'intenzione sporca, ma sporca non vuol dire in lingua, ma significa buttare, che è molto più complicato. È come cercare di cantare in maniera semplice, vuol dire che sei padrone di una tecnica così profonda che riesci a semplificare l'emissione vocale. Infatti lì è stato Mendola, è stato un grande, perché è uscito fuori lui con che quella vociaccia, una voce che assolutamente impensabile, sì, no? Una voce non bella poi, sì, sì, non bella ma straordinaria, però che gli vuoi dire? Tu l'hai conosciuto molto bene, sì. Per me lui, Locchi, Rinaldi, vabbè, sono i miei miti, no? Sì, sì, sono i nostri ma maestri. È vera la storia, faccio io il compito, sì, è dimmi, vera la storia del microfono nella tonsilla? No, molto vicino, sì. Ferruccio aveva una voce pastosa, leggera, con grande profondità, per cui non avendo questo timbro che magari ti permette di scansarti al microfono, lui era, va tutto bene, ok? Va tutto quanto bene. Tutto finito. Un po' da quella T, anche quella T bellissima che c'è anche Pino Colizzi, non ve lo devo intervistare. Le T morbide, ma è lui vicino. Già. Ok, stai parlando a me? È tutto, sì, finito. Sì. È tutto finito, ok? È tutto quanto finito. È tutto finito, okay? Non sei niente, non hai niente. Portava la voce quella mia, però quando poi doppiavi con lui dovevi equilibrarti, certo, e i tecnici facevano, certo. Però ho capito, cioè, una verità nella voce, nell'interpretazione. Pazzesca. E riusciva a impastare la sua voce con delle facce diverse, appunto, da Stallone a De Niro, da Sinofo, tutti, da anche Sinofo, se poi Giannini è perfetto sul poi Pacino. Quella volta lì successe la famosa cosa quando c'erano due attori che nello stesso film, non ricordo chi fossero, erano Al Pacino e Robert De Niro. Ha dovuto cederne uno. Sì, ma poi credo che l'abbia fatto Giannini, mi pare. L'altro. Giannini l'ha sempre ha cominciato lui Al Pacino con Un pomeriggio e giorno da cani, come ha cominciato Proietti con Rocky 1. Era Gigi Proietti, infatti, sì, Adriana, sì, sì. Eccetera, Gigi Proietti. Però lui riusciva veramente ad essere magico. E stava bene voce. Comunque, la sua voce... Sì, te sta bene, anche se le voci loro sono completamente diverse, perché Al Pacino è identica a Giannini. Anche lo stesso De Niro è molto simile, De Sandro lo fa molto bene, si assomigliano molto. Ma sai, questo è il lavoro di... Dobbiamo andare, Valeria mi fa un cenno, sì. Va bene, tanto abbiamo... È già passato... È volato via. Ma non stai andando via. No, ok. Sapete che ti cacciano via normalmente Natale. Poi pensate, avere per una volta in una trasmissione a piacermi. Natale e Pino, ragazzi, è il massimo della vita. Perché si può pretendere niente di più dalla vita. A tra poco, voi sonatomi. Sanatomi. Bentornati signori, colgo l'occasione anche per ringraziare il capoprogetto di questa bellissima trasmissione che a me piace tanto, è inutile far finta di niente, mi piace veramente tanto, ed è Alessia Navarro, e l'altro autore è Mauro Meconi, che oltre ad essere un bravissimo attore, che è anche il fiero l'occhio di Romanzo Criminale, Tre metri sopra il cielo, è un regista, è un autore straordinario, l'ho voluto al mio fianco e speriamo di allargarla sempre più questa redazione fatta di grandi professionisti. Mi fai sentire un primo contributo di Natale, che abbiamo un Capitano Kirk? E allora vai Valeria con Capitano Kirk Enterprise. Un bambino. Sì, giovane. Sì. Ascoltatemi! Sul mio pianeta abbiamo trovato parole simili a queste in molte terre, in molti paesi, tutte ugualmente buone e ugualmente meritevoli di rispetto, ma da nessuna parte, in nessun'altra terra è stata detta una cosa così importante. E soprattutto in questo modo. Guardate queste parole scritte più in grande delle altre e con estremo orgoglio. Parole mai scritte prima, né più ripetute da allora. Parole che dicono fieramente noi popolo. Le parole che voi pronunciate, o i popstini tip, non sono state scritte per i capi, i re, i guerrieri, i ricchi o i potenti, ma per tutto il popolo. Col passare dei secoli voi avete deformato il significato di queste parole. Noi, popolo degli Stati Uniti, per formare una unione perfetta, stabilire la giustizia, assicurare la tranquillità nazionale, provvedere alla difesa comune, promuovere il generale benessere e assicurare il bene supremo della libertà. Beh, allora, ma ti presenti me lo devi dire, ti presenti alle elezioni adesso. Non fare questi scherzi, beh... Il Capitano Kirk è quello. Sì, fa parte. Però io. Sai quel il poeta che si gira nella tomba? No, io l'avresti fatto diverso. Ma dai, l'avresti fatto diversamente. Ovviamente più maturo, soprattutto. Ma avrebbe avuto un'altra faccia, un'altra voce. Sì, scusami, certo, no? Certo. È giusto così. Non potevi parlare, signori, il popolo degli Stati Uniti. Dai, è un bellissimo discorso. Scatenate l'inferno. Però Luca Ward ha finito finalmente la tournée, per cui avremo Luca Ward da noi a Voice Anatomy. Ci sto a fare l'amore da 3 mesi. Ma quando torni? Che qui la gente può sentire st'inferno. Vabbè, mi stavi raccontando prima della riconoscibilità. Sì, sono arrivato un po' prima e ho ascoltato anche Limiti. Allora, la riconoscibilità per chi usa la voce come nel nostro mestiere, che è il mestiere più bello del mondo, trovo. Scusami, lo voglio dire, divago, però è bellissimo. Pensa che sono in pensione e continuo a lavorare, cioè perché mi piace troppo. Come fa? Anche Francesco è in pensione ma continua a lavorare. Continua a lavorare. Non si capisce comunque, il motivo, ma comunque. Insomma, quindi io sono riconoscibile per la voce, quindi certo. Ho una vita normale, quindi vado a pagare il bollo, a fare la spesa o anche... E mi presento alle prime volte, quando all'epoca di Star Trek e di Magnum soprattutto, sì. Si aspettavano andavo a ritirare la fattura per prendere i soldi della pubblicità, si aspettavano di vedere chissà chi. Ora, un baffone tu bello, grosso. Alto 2 metri, io sono veramente... Un uomo piacevole. Insomma, pelatino, gamba corta, culo basso. Ma non siete scritto come povero? Dai, no! Rimanevano deluse, dice, come dire, la faccia, tutto qui. Tutto finito. Tutto finito. E io dico, sì, sono io, però, scusate se ragazzi, tu pensi che io, Awanagano. Se tu pensi che io ho doppiato John Holmes in un film, che si aspettavano quando mi spogliavo, scusami. Cioè, non è, quando ho cominciato, certo. 35 anni fa, io quello facevo. Non so se qui a Milano c'era il doppiaggio dei film a luce rossa in quel periodo. Sì, sì, perché per forza, perché erano in italiano. Si possono dire i nomi, non sì. Dei titoli. No, ma pure i titoli io l'ho detto, certo, tranquillamente. Stasolla che faceva... Stasolla? Stasolla. Stasolla a Roma vuol dire uno che te frega, no? Ma un porno star? No, faceva... Era un... Direttore? Un produttore, cosa facesse esattamente. Però c'era all'inizio, parlo degli... Anni 80? Prima ancora, metà anni 70. Metà anni 70. Eh sì, perché uscivano, c'era il cinema, non c'era VHS ancora, non dico no. I Blu-ray, non dico i DVD, ma non c'era VHS, qui il cinema, andai a vedere al cinema, che era a luce rossa o blu, era al cinema. Ed era in italiano, non c'era e per cui dovevi godere. In gioventù... Apriamo questo link e finiamo dopodomani. Non ti dopodomani. Nascondo, Pino, che in gioventù qualcosina, ma ero proprio un ragazzo... No, ma si guadagnava pure grande, di più. Però grande ossigenazione, andavi via col mal di testa. No, ma svenivi, perché se tu respiri a vuoto, voi lo sapete che siete dei cantanti, prova a respirare a vuoto per un minuto, veni per ventilazione del cervello e vai lungo, insomma. Anche i film di guerra noi li doppiamo 30 secondi per 30 secondi, certo. Perché tu immagini Il Signore degli Anelli, infiniamo a più de fa botte queste, parla, se non parla la scia colonna internazionale, ma se parla, certo. Un orco così, tre quarti d'ora senza fare rumore, lo sai Natale, insomma, davanti al microfono non devi fare assolutamente rumore, però insomma sei contento di questa vita, di questo. Ma a Roma non sei mai venuto a doppiare, sei rimasto qui? È stata una scelta di vita, perché che poi non è questione di razzismo, nasce a Roma il doppiaggio, no, poi ovviamente. Sono milanesi e triestini, vengono a Roma, sono a Roma, insomma, sì, come la moda è a Milano, questo ecco. Questo è vero, però io avevo già una famiglia, un figlio, non me la sono sentita di mollare. E poi soprattutto c'era la pubblicità. Sì, qui ce n'è tante. Che è l'anima del commercio. Puoi farmene una senza... Fai pubblicità, Voice Anatomy, la trasmissione radio più seguita in Europa. In Europa, questo si è inventato Giravolo. In Europa. Ma no, ormai con lo streaming puoi fare, con i podcast, ci sono i podcast. Intanto il titolo è in inglese, già questo. Sì, mi piaceva molto. Così insieme al mio amico e socio Filippo Cellini trovammo questa idea, Voice Anatomy. All'inizio dice, ma no, è americano, sì, ma viaggio attraverso il mondo della voce. E Voice Anatomy lo racconta bene. Poi adesso vedo che un po' dappertutto viene questo Anatomy, viene messo, Race Anatomy, tante cose... Viene ma utilizzato. Se posso permettermi, devi. Hai avuto un'idea che, per l'amor di Dio, tu l'hai realizzata, sì, perché sì. Sei Pino. Tu però sei Natale, l'idea, è bellissimo. L'idea. Pino e Natale insieme, è bellissimo. No, io ho sempre pensato che il doppiaggio sia un mestiere, una professione molto apprezzata dal pubblico, sì, dalla sì, gente in molto generale. Molto più amata da loro che da noi certe volte. Sì. E appena tu dici, sì, davvero, com'è? Ma spiegaci, esatto. Ma come fai a dire quelle robe? Sì, ma sì. Cosa fai? Leggi? Cioè, non di lo sanno, è magico, è un lavoro magico, è vero. Dico, una trasmissione che parla di doppiaggio in radio o anche in televisione avrebbe, secondo me, come questa, successo. Ascolto... Soprattutto parla di voce in tutte le sue declinazioni, ed è ancora più affascinante perché la voce è proprio un elemento di comunicazione più importante del mondo. Lo ripeto, una persona può essere come vuoi, ma se non ha la voce giusta, non viene piacevole, non è simpatica, non è un grande leader. Noi abbiamo analizzato in questa trasmissione le voci dei leader politici e capire per quale motivo seguivi più quello che l'altro, quel cantante piuttosto che un altro. Lo vai a scannerizzare una voce, togli le consonanti, senti il diagramma vocale, i decibel e capisci perché quella voce ti dà fastidio oppure no. Ma guarda, c'è un mondo che io... pensavo di conoscere, invece ho cominciato adesso a muovermi all'interno di tutto noi questo. Che conosciamo, che la usiamo tutti i giorni per lavoro, è un'altra cosa importante è smussare determinate cose. Quello che tu in un momento di rabbia vorresti urlare, vorresti però riesci, va bene, ok, sì, senti. Però se facciamo così magari, no? Ecco, non, giusta. Non credi, cioè, che cambi tono. La fai più dolce, sai come più profonda e risolvi delle situazioni. A me mo dici, non risolte tante così da ragazzetto. Ho giocato un po' su questo. Quanto manca alla fine di questo blocco per capire se posso? 4 minuti, allora volevo fare... No, facciamo cantare nell'altro blocco prima di salutarci, che poi c'è quell'intervista. E voglio sentirmi, qui arrivano 1000 messaggi, qualche aneddoto divertente quando doppiavate film porno. No, vabbè Mario, la prossima volta, no, sono divertenti molto. No. Però lo farò. Ciao Pino, la voce di Magnum PI che ha fatto sognare questo giovanotto di quasi 44 anni che ti sta scrivendo. Non esiste modo migliore per allietare la domenica. Beh, forse un modo ci sarebbe, un giro su quella mitica Ferrari, lo so. Io una volta l'ho fatto, ma non c'era nessuno a Monteverde a guardarmi. Un amico mio c'era un Ferrari, ho detto fammi vedere. Sono andato in giro per i bar che conoscevo e non c'era nessuno. Va bene, ma questa è un'altra storia. Infatti anch'io. Un abbraccio a tutti voi, un fedele ascoltatore Dino. Dimmi, Natale. No, era una cosa. Se vuole mi chiama in privato e andiamo a fare un giro con la Ferrari. C'è Ferrari, Natale, col doppiaggio non si fa il Ferrari. Guarda, te lo posso garantire. No, dice a gente, quanto hai guadagnato? E dice la cifra. Dice, ma che davvero? È così, tranquilli. Ancora si vive di cifre oneste. Però ci abbiamo un Magnum PI dannata. E me lo mandi, Valeria? Dove? Ecco. Beh, Amy è andata agli uffici della Pecaile, è lì che mi sono accorto che Mayfield la pedinava, ma il collegamento interessante è Arthur Houston, ma lei ci aveva già pensato. Oh, Arthur Houston? Sì, il proprietario della Pecaile, ha le mani in pasta ovunque, era alla festa di Jason, le ha anche parlato. Oh, sì, certo, lo ricordo. Andrò a farci due chiacchiere. Non credo sia una buona idea, non sappiamo nulla su questo tizio, potrebbe essere pericoloso, potrebbe farsi male. Se in questo momento lei fosse fuori, che cosa farebbe? Beh, andrei a parlare con Arthur Houston per avere delle risposte. Bene, signor Magnum, visto che lei non può, lo farò io. Ok. Ancora una cosa prima che se ne vada. La prego, dica a Higgins di farmi uscire. Sì, naturalmente. Allora, Jessica, che ne dici se facciamo un patto? Ecco, ma io adesso... Senti come era diversa. Ma, già. Cioè, ma chi è la doppia di Samara Day? Sembra la signora in giallo. Sì. Ah, è lei. E che c'è da Magnum PI con... No, perché... Angela Lesbury. C'è stata l'Angela Lesbury, perché c'è stata una puntata di Magnum la PI signora in giallo... Ospite d'onore, Magnum PI. Come si chiama? La star, sì, che la partecipa, star. No? Sì. Guest star. Un cameo, no? E viceversa. E una volta anche nel Magnum PI è intervenuta osmosi. Per cui era Morodei, era lei la doppia dice che non c'è più da poco tempo, ci ha salutato un'età importante, io gli ho dato un premio qualche anno fa. Due settimane fa. Da poco, sì, se n'è andata, una signora meravigliosa, gli ho dato nelle sue mani proprio pochi, 2 o 3 anni fa, proprio il premio del doppiaggio ed era molto emozionata. Vabbè, sono le persone che hanno fatto grande un mestiere. Beh, ma tutti nel corso di questi ultimi 10 anni, insomma, qualcuno, come tu giustamente dicevi prima, che vuoi mandare qualcosa per ricordarle, per la memoria, perché non si disperdano questa... Ne parliamo spesso. Non bisogna disperdere i talenti, non bisogna disperdere, ma soprattutto per loro, per far conoscere da dove siamo partiti. Per cui loro sono arrivati a questa musica tramite... una storia importante e ci sono arrivati. Allora andiamo in pubblicità per poi fare l'ultimo blocco insieme, per poi l'ultimo invece voglio mandare questa intervista straordinaria a Gianni Musi, a Gandalf. A tra pochissimo Voice Anatomy. Voice Voice Anatomy. Eccoci di nuovo, Voice Anatomy. Di fronte a me Natale Ciravolo, una voce storica del doppiaggio che rappresenta un po' Milano del doppiaggio. Insomma, non voglio togliere la paternità a nessun altro, ma insomma credo che tu sia la punta di diamante, sì, diciamo, qui che a Milano. Sono nato e cresciuto, diciamo, fin dall'inizio del doppiaggio milanese. Io dopo un anno o due sono entrato in cooperativa allora, e quindi ho vissuto gli inizi del doppiaggio milanese. E poi non siamo dovuti venire a Roma perché la famiglia ti ha... Avevo altri impegni. Ma anch'io Los Angeles è stata dura con me per lo stesso motivo. Io volevo poi... in tutti i modi, ma sai, avendo famiglia qui, ho detto Scorsese, trovo un altro, e trovò De Niro. Vabbè, Pino, posso darti un'altra giustificazione? Adesso posso darti del tuo? Dimmi. Posso darti del... Sì. C'è un'altra cosa che non so se si può dire in radio, però non sono cose sporche. Sì, no, c'è Cruciani che parla da qui normalmente. Non sono parolacce, non sono parolacce. Io, sai, anche a Milano, quando passa una macchina con la scorta, mi dà fastidio, e mi si ribolle il sangue. E allora pensa a Roma. A Roma ci stanno solo le macchine che scorta. Non so come fate. Io non riuscirei a vivere col a Roma. Motorino mi metto dietro, però. Ah, ma che così arrivo prima. Ogni tanto penso, poi non lo faccio, e dico adesso mi metto, anch'io giro col motorino, mi metto davanti così non li faccio passare. E te montano sopra. Guarda. No, scendono coi mitra, perché chissà questo che vuoi fare. Vabbè, quando ti presenterai? Presentali ormai come sindaco, no, si presenta chiunque. No. Sei un uomo. I paesi del nord, Pino, in Svezia, in Danimarca. Io sono entrato al Palazzo del Parlamento, non mi ricordo dove ero, in Danimarca o in Norvegia. Come mi sono accorto dopo che era il Parlamento. Nessuno mi ha fermato, sono andato, io ho visto un bel cortile interno. L'hanno preso per svedese, biondo, no. Alto non sei così ma alto. Ma perché non deve essere così anche in Italia? È perché ormai si è trasformato un po' in modo, ma questo è un'altra storia. Questa è un'altra trasmissione. Ragazzi, intanto, visto che questo è l'ultimo blocco, cioè ce n'è un altro dopo, ma va quell'intervista bellissima di Gianni Musi, volevo salutarvi bene, però volevo ascoltarvi anche, certo, non solo ringraziarvi. Che cosa abbiamo scelto? Visto che veniamo da una Beat Story... Sentivo che parlavate dei Beatles. Sì, noi non riusciamo a non fare almeno una canzone dei Beatles. Dai, ma sì. Comunque andiamo. Abbiamo l'inglese rappresentante. È stato bellissimo. Adesso Natale ha detto, ma tu hai fatto... Caro Alexander, hai una faccia proprio inglese. Ho fatto, so inglese. Cioè, era brutto, avevo norvegese sta faccia. Però in effetti è veramente inglese. Che cosa? Visto che siamo a Voice Anatomy, abbiamo scelto un pezzo che è Because, che è una miscela di voci. Ah, ecco, quindi... perché dicevo che c'entra Because, vuol dire perché... Cioè, perché tu fai sta trasmissione, Pino? Pensavo fosse dedicata. E allora, okay, Street Clerks. 1, 2, 3, 4. Because the world is round, it turns me on. Because the world because the sky is blue. Che bello, bellissimo. Vedi, questo non sono cover, nel senso, perché sennò uno si sente quell'originale, se non ti dà quell'emozione in più, no Samantha? No, loro riarrangiano, prendono, stravolgono, la rendono loro. Sì, la fanno proprio, esatto, sì, questo deve essere un pezzo, potrei dire, è mio, Io non l'avevo riconosciuta. Infatti il è suono, ma il suono volte... sicuramente Beatles è sicuramente quel periodo, però a volte magari dicono vorremmo fare questa canzone Once Catch, cioè io poi non le conosco ovviamente, poi le sento fatte da loro e per me può essere veramente anche Paperino ad averla scritta, che no no, ma infatti è quella, è l'interpretazione che tu dai, no Samantha, sì, sì, tu sono... ne sai qualcosa, sì, io il mio sogno è vederti a Roma su un palcoscenico, ma vengo, deve succedere, dobbiamo organizzarla assolutamente, assolutamente sì. Allora intanto manca un po' per salutare, 4 minuti ci sono, per cui voglio dire i vostri nomi alla fine che la gente si li ricordi bene, soprattutto Francesco e lo eviti in qualche modo. Natale, tanti ragazzi degli anni 80 ti ricorderanno sicuramente anche per essere stato la voce narrante di Siamo Fatti Così, esplorando il corpo umano. Io non lo sapevo. Questa è stata Alessia Navarro, tributo, cioè adesso ce l'abbiamo un contributo anche, ma il capotecnico è ancora lì. Ma è sempre al posto di comando, è l'ultimo a abbandonare la nave. Ascoltiamolo, Siamo Fatti Così. All'interno di alcune ossa del nostro organismo troviamo... No, non è questo, la voce arriva adesso. Il midollo osseo. Eccolo. Ogni giorno produce 400 miliardi di piastrine. Hai capito? Delle piastrine. Ma a che cosa servono? Scusa, è bellissimo, ma racconta così il corpo umano, bello, diamo ma voce alle piastrine. Io quando ho fatto questo prodotto, non immaginavo assolutamente, dico ma sarà una cosa per bambini che poi dopo morta lì, finita lì, durerà il invece tempo. Guarda, dopo 36 ma anni dopo, siamo qui. Dopo 40 anni, una roba, è tantissimo tempo fa, mi ritrovo dei bambini che ormai, hanno, che ormai di hanno 60 vera. Anni che dicono ma sai che quella roba là ma evitato era bellissima l'emorroide, perché era sceneggiata, era sceneggiata, era carina, era bella, sì. Noi l'abbiamo guardata, io la guardavo da bambino quella... anche io guardavo, sì, sì. Ma eravamo io una mia collega, la Fistola. C'è un documentario sul corpo umano così, è bellissimo. E tu facevi tutto, no? Eri sempre tu. Eri... Io mi sono divertito quando il momento degli spermatozoi, di quelle cose lì. Sì, è bellissimo. Com'è la voce dello spermatozoi? Hai ricordato Woody Allen? Eccoli, l'ultimo che arriva! Taga da beve! Ma è bellissima questa cosa, davvero straordinaria. Allora, signori, ci siamo quasi, mancano 2 minuti, 3 minuti mi fa... Valeria, niente. Una di Equitalia, santa miseria. Va bene, 3 minuti, io sono felice, sono 60 secondi in più. Però è arrivata anche Alessandra Scaglioni, che io saluto, un altro personaggio molto importante e rappresentativo e di Radio 24, un po' l'anima. Non si dicono parolacce, eh. Dimmi, Natale. No, niente. Ho sentito la voce. Tu senti le voci, infatti. Beh, l'ultima puntata abbiamo avuto, pensa, le allucinazioni, lo studio delle allucinazioni uditive. Hai capito? Sì, sì, è bellissimo. Poi sulle voci, sì. Uno sente le voci, eccetera. Abbiamo fatto un percorso. Sì. Ma sai, il mondo della voce, ti ripeto, è declinato in mille modi. Però mentre io saluto, voi dovreste armonizzare qualcosina, certo. Perché insomma è più bello il saluto ringraziando tutte le persone che si sono alterate. Anche se sto salutando solo voi, perché abbiamo ancora l'intervista a Gianni Musi subito dopo questo blocco, ovviamente. No. Un po' alla Quark, e poi abbiamo la voce del corpo umano qui, capirai. Certo. Guidaci. 1, 2, 3. Vai Francesco, non sa contare neanche fino a 3 in inglese, ma che lo tenete a fare? Ah, prende il contrabbasso, attenzione. Beh, dovevo finire così, in gran bellezza. Sì, una cosa di 4 metri. Aspetta, sì, no, dici. Sì, c'è ragione. Che sei venuto a fare, caro Cosimo? Il corpo umano. Tutto da scoprire. Vedete com'è evocativa. Beh, è bellissimo avere loro in sottofondo che raccontano questa avventura. Quali sono i prossimi impegni dei ragazzi, cara Samantha? Stiamo ultimando le ultime puntate di E poi c'è Cattelan, che va in onda tutti i giovedì, sì, su Sky 1 alle 23 circa. E uscirà il nuovo singolo. Sempre tratto dall'album Fuori? No, un nuovo album, uscirà a Natale circa. C'è un pezzo dove posso fare una voce, una cosa gratis? Assolutamente sì. Magari. No, magari lo dico ma io. Magari, assolutamente. Sì, sarebbe bellissimo. Pure Natale, per Natale e Pino bisogna metterli insieme per forza. E quei festoni. A me pure piace cantare, quindi. E allora facciamo assolutamente festa. Insomma, questo è il nuovo singolo? Il nuovo singolo uscirà fra qualche settimana, partiremo poi con una mini tournée estiva, e poi ci concentriamo per l'album a settembre, uscirà poi a Natale e via dicendo. E via. E poi sì, ci rivediamo a Voice Anatomy, spero che Alessandra magari mi rivolrà da settembre in qualche modo, non so Valeria, mi facendo di uno, un minuto. E allora io ringrazio e gli dico nome per nome, Alexander Woodbury, che ha una faccia inglese perché è inglese, Valerio Fanciano, ciao, voce chitarra elettrica, il nostro amico Cosimo Ravenni, voce e contrabbasso, e Francesco Giommi, che sta per salutare il gruppo, voce e batteria. Ciao in generale. Samantha Iorio, voce soul per eccellenza. Grazie. Non sarai mai soul, lo sai perfettamente. Con te mai, con mai, mai, mai, mai nella vita. Natale, grazie per essere venuto. Sei grazie stato a te per avermi invitato. Come un bambino, io sono felice. Perché poi prendo coraggio, capito? Sì, no, è bellissimo. E allora io ringrazio la redazione milanese che mi ha ospitato in questi studi straordinari. Ringrazio Michele, il capotecnico, un altro amico che mi ha assistito all'inizio, che non mi ricordo il nome, Andrea. Grazie, Andrea. Grazie a Nicole. Grazie a Valeria, che soltanto una A e una O, la differenza da Valerio da Roma, ma la squadra è la stessa, non la mia. E ringrazio Alessandra, Radio 24, però non ho finito perché adesso vi presenterò fra poco questa bellissima intervista e lì ci saluteremo davvero e vi do appuntamento ovviamente a domenica prossima. E allora a tra poco con Voice Anatomy. Ciao! Ciao, ciao, ciao. Voice Anatomy. Bentornati signori, Voice Anatomy, Radio 24. Voglio chiudere la puntata oggi lasciandovi ascoltare l'intervista che un grande del doppiaggio, che purtroppo non c'è più, ha rilasciato per i microfoni dell'Enciclopedia del Doppiaggio. Alcuni lo ricorderanno per aver prestato la voce ad attori straordinari come Richard Harris, Christopher Plummer, Ian McKellen. Altri lo ricorderanno per essere l'inimitabile Gandalf, il bianco della trilogia del Signore degli Anelli, e detto dal vostro Aragorn, credeteci. E lo stregone silente di Harry Potter. Ma per tutti noi lui è un grande. È Gianni Musi. Ho iniziato durante la guerra, da ragazzino, siccome avevo fatto già un paio di film, è chiaro che se uno è figlio di un medico, di un falegname, di un fornaio, non sa neanche cos'è il mondo del doppiaggio. Essendo io figlio di due attori, mio padre era il cattivo del cinema italiano, si chiamava Enrico Glori, fece Don Rodrigo dei Promessi Sposi, di Camerini, il primo Promessi Sposi, quello bello, quello in bianco e nero, l'inquisitore del Fornelletto di Venezia, eccetera. Perché Glori? Perché mio padre era figlio di un presidente di corte di Cassazione, non porterà il nome dei Musi sulle scene, era uno scandalo all'epoca, uno scandalo, non so, uno che faceva l'attore era un buon a nulla, un cialtrone. E mio padre, che era nato, che è nato, poi se n'è andato, ma è nato lo stesso giorno, lo stesso anno dove sono nato io, meglio, io sono nato, mio padre è nato il 3 agosto del 1901 alle 3 del pomeriggio, io sono nato il 3 agosto del 1931 alle 3 del pomeriggio. Sì, ma il casato è francese di origine, perché a Napoli c'è stata una dominazione francese, certo, ma tutto questo credo è... Una volta si diceva i telespettatori, invece come si chiamano gli spettatori di internet, gli interspettatori, navigatori, chiamiamoli così. Non credo che gli importi queste cose. Andiamo avanti. Allora, durante la guerra noi eravamo alleati con la Germania, quindi facevamo i film tedeschi. E quindi io da ragazzino, col tram, con la nonna che mi accompagnava, andavamo, per me era come un gioco, non sapevo che poi da grande lo avrei esplicato come attività, il doppiaggio come attività impegnativa e remunerata, insomma, non tanto, anzi crediamo. Comunque possiamo andare avanti. Da allora, durante la guerra, io poi dopo mi sono dedicato non pensavo di fare l'attore, pensavo di fare l'artista figurativo, mi interessava la scultura, la pittura, il disegno, tentai di fare dei fumetti per il Vittorioso, poi presentando un manifesto, perché all'epoca non c'erano i trailer del cinema, c'erano i manifesti, famosi manifesti, quello della Terra Trema è famoso, insomma, e mi presentai alla Lux Film con un manifesto di un primo film di Pietro Germi, che non aveva ancora fatto Il nome della legge, insomma, non era ancora famoso. Comunque mi vede Luigi Zampa, sapeva che da bambino avevo fatto dei film, io cerco il figlio della Magnani e mi chiama per fare l'onorevole Angelina, il figlio di Anna Magnani. E allora io scopro il mondo del cinema in cui le ragazze ti sorridono, in cui i soldini arrivano abbastanza facili, eccetera. E quindi è un po' tralasciato l'attività dell'arte figurativa. E poi sono stato privato giovane con Emma Grammatica, che il cui nome per i navigatori forse non vuol dire niente. È terribile, come non essendoci mezzi tecnologici all'epoca per fermare, c'era solo il cinema, per cui ci sono fior di grandi attori e attrici che sono sconosciuti perché non sono stati eternati nella tecnologia di oggi, DVD, VHS, eccetera. Comunque non ci disperdiamo. Faccio l'attore per vari anni. Ogni tanto capitava dei doppiaggi. Per Visconti, Rocco e i suoi fratelli, per Spiros Focas. Poi improvvisamente io avevo 2 mesi d'affitto arretrati, mia moglie Rada in attesa della bambina, siamo nel 64, la bambina Masha, che oggi ha preso premi per la migliore attrice italiana, per tante cose importanti come Anna Karenina, eccetera, ebbene mi fanno il provino per doppiare Italiano Brava Gente. Il protagonista era Raffaele Piso, delizioso attore, amico mio, però milanese. Il personaggio era il figlio di un fagocchio romano. Cos'è un fagocchio? Colui che fa il cocchio, cioè il costruttore di carrozze. E lui faceva il fiacre, si chiamava fiacre di origine francese la parola, cioè quello che c'ha la carrozzella. E lo sbattono in Russia, che non sapeva neanche dove era la Russia, dove va a morire. Un film straordinario, Italiano Brava Gente, un film di Beppe De Santis. Perché mi chiamano a fare il provino? Perché lui è milanese e invece questo doveva parlare romano. Io, incavolato nero, dico: avete chiamato uno che non c'entra niente con Roma. Io non è che sono romano, ma vivo a Roma dallo scoppio della guerra, quindi io poi parlo 4-5 dialetti in modo perfetto. Fiorentino, perché sono fiorentino d'origine. Napoletano, perché a casa vado a parlare, ma tutto quanto è napoletano. Parlo siciliano, palermitano, perché anni fa, pochi anni fa, sono stato persino candidato all'Anasso d'Argento per non il doppiaggio, ma per l'interpretazione di Buscetta nel film Giovanni Falcone. Vabbè. E mi fanno sto provino, eravamo in tre, Giancarlo Sbraggia, Paolo Ferrari e io. Evidentemente non perché io fossi più bravo, ma perché evidentemente la mia voce era più, il mio timbro era più da bonario, più da romano, più stanco, o io l'ho cercato di farlo così. Il fatto è che vinco il provino. Informo, all'epoca un protagonista prendeva niente proprio di meno che 17.000 lire a turno, che erano già una cifra. Però se fai un provino puoi chiedere una cifra. E io, che poc'anzi mi pare che ho detto che c'erano 2 mesi di affitto arretrato, la moglie incinta, eccetera, io, preso dalla forza della disperazione, gli chiedo 30.000 lire a turno. Ah, ma non possiamo, ma già, alla fine me le danno, io doppio quel film, mi compro la macchina, pago gli arretrati, eccetera, e ciò che ce l'ho in cassetta. Ed è una cosa, mi telefonò poi, devo dire, Raffaele Piso, per ringraziarmi quasi, perché l'avevo valorizzato, senza niente togliere alla sua interpretazione. Non faccio più doppiaggio, continuo a fare televisione, teatro, eccetera. Un bel dì siamo nella fine anni 60, vado in Francia, dove andavo in Francia a fare un film con De Funès, che era un po' il Totò francese. Il film esce in Italia, io lo vado a vedere e mi vedo doppiato. Addirittura? Addirittura. Io avevo anche doppiato nella Dolce Vita Paparazzo, si chiamava Paparazzo, l'ho doppiato io. Fellini poi dopo ogni film che faceva, quello della Luna con Coso. Eh sì, perché lui era molto attento al doppiaggio. Sì, lui se lo inventava lì per lì, lui non gli importava, lui faceva dire dei numeri agli attori. Poi dopo io gli ho doppiato contemporaneamente 5 attori, non il nome della Luna, come si chiama? Quello con Benigni. È inutile che faccio l'elenco di quelli che lui faceva, beh, mi piace, Giannino, fammi Giannino, senti, adesso mi doppi quello lì, gli fai dire aspetta, dice così, così, così, così, vai, vai. E gli ho doppiato uno in siciliano, uno in bolognese, uno in parmense, con la R, perché a Parma parlano così con la R, hai capito? Boh, allora, insomma, vado alla società che aveva doppiato il film, perché come mi permettete di doppiarmi? Io sono noto come doppiatore, non è che lo faccio sempre, però mi scusi. Fede Arnaud, la grande Fede Arnaud, grandissima, un altro po' mi si inginocchia per chiedermi scusa, dice non sapevo, non l'ho trovata, insomma, tra l'altro mi doppiò un amico, un grandissimo, che era Renzo Palmer, ma insomma ero rimasto male, no? Niente, da quel momento lei mi coinvolge e io divento socio della SAS, Società Attori Sincronizzatori, dove poi divento anche direttore, poi per ragioni che è inutile qui raccontare mi sono stufato da direttore, perché a un certo punto quando fai le serie non fai più il direttore, fai l'ascoltatore, devi correggere soltanto se uno ha una E stretta o aperta, ma non è più un dirigere, un dare, un sorreggere, un aiutare, niente, è così. E poi ho lasciato la SAS e mi sono lasciato libero e ho fatto doppiaggi di alto livello per i quali sono stato candidato, non sapevo che esisteva il Davide Donatello per il doppiaggio, perché io ho doppiato niente meno che, è il doppiaggio più impegnativo che ho fatto nella mia vita a livello proprio interpretazione, difficoltà, Prosperous Books, La Tempesta sarebbe, tradotto in inglese I Libri di Prospero, con John Gielgud protagonista, che fa Prospero, però fa anche le voci di Ariel, la voce di... è un film che bisogna vederlo, perché è un film che ti incanta, lo devi vedere 3 volte prima, e fu una grossa impresa. Ciao carissimo Gianni, ovunque tu sia, è proprio su questa scia di questa bellissima intervista che ci è stata gentilmente concessa dall'Enciclopedia del Doppiaggio, io vi saluto e vi do appuntamento a domenica prossima. Grazie come sempre per volerci così bene.